Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Buongiorno signori miei, buona domenica, sono le 14:31 primi e 44 secondi, domenica 19 febbraio. Come sempre cominciamo Voice Anatomy facendo gli auguri e cercando anche di riceverli in qualche modo dalle persone che ci hanno regalato tantissimo con la loro voce, non soltanto ovviamente abbinata a un corpo. Oggi è anche la festa della voce di Radio 24, che è Christian Jansante, che sentiamo spesso per telefono, al quale facciamo tanti auguri, ma soprattutto oggi è la festa del grandissimo, e ci manca tanto, Massimo Troisi. E allora volevo cominciare proprio ascoltando un momento della storica Smorfia con Enzo De Caro e Massimo Troisi e il grandissimo Lello Arena, un momento dell'Arca di Noè dove cercano di lasciare questa terra con... Vabbè, ascoltiamolo. Papà, sull'arca tutto a posto. Sono arrivati tutti quanti, le coppie di animali, pinguini, tutti pronti. Quando volete possiamo partire, papà. Bella giornata oggi, papà, ci stanno sola. Non ci sta manca una nuvola. Sicuro che oggi ve lo fate? No, perché mi sono prontato pure. Comunque, sono solo gli animali, chiamate perché tutti a posto. Indietro! Non c'è posto per gli empi in questo luogo di giustizia! Solo la mia famiglia! Sono vostro figlio, papà, sono vostro figlio. Brutta cosa, vicchiai, papà. Indietro! Non c'è posto per gli empi in questo luogo di giustizia! Solo gli animali! Solo gli animali, scusate, che sono, non vedete le orecchie, cose, tengo tutte cose. Un animale? Se sono un animale, devo salire. E che animale sareste? Cioè, sono un gufo. Già si sanno. Che già ci sta. No, ho detto un gufo. No, sono una tigre. Sono arrivata. Un cerbiatto. Ci stanno. Un rinoceronte. Ci sono. Un minollo. Un minollo. Cioè, sono un minollo. E che animale sarebbe questo minollo? Cioè, un minollo. Un minollo, sapete, deve salire. Che aspettate un momento, aspettate. Cam! Papà, quando volete possiamo partire. Cam, state un momento, zitti, per cortesia. Cam, sono già arrivati i minolli. I minolli? Già ci stanno. Ecco, i minolli già ci stanno, ma vediamo se c'è Enzo De Caro al telefono. Pronto, Enzo? Beh, la giornata dei minolli, dei rostocchi. Dei fangilli. Bello, Enzo, come stai? Ciao, tutto bene, ben trovato, Pinocchio, a te e ai tuoi. Grazie tesoro mio, io perdonami se ti disturbo di domenica, ma mi sembrava giusto un sorriso, un ricordo a una persona che tu conosci meglio di chiunque altro, insomma. Il compleanno di Massimo, tra l'altro mi ero un po' preoccupato, come tu sai noi festeggiamo sempre il compleanno di Massimo con una partita di calcio con l'Italia in attori, ma non t'ho visto ieri, mi sono preoccupato, come mai Pinuccio sulla fascia? Pinuccio ormai non può fare più manco il derby del cuore, fa il derby della prostata, non gliela faccio più. Siamo in parecchi. Ho superato l'età della ragione per poter affrontare un campo di calcio, purtroppo. Perfetto. Tu invece stai sempre bene. Dove sei adesso, a Milano? Insomma, è un modo così carino per ricordarlo. Per ricordarlo abbiamo fatto anche ieri. Ma sì, anche perché Massimo fondammo insieme, mi ricordo, la Nazionale Calcio Artisti, che è uno spin-off della Nazionale Calcio Attori, dove lui amava tantissimo essere il numero 10 e giocare. Lo spin-off potrebbe essere uno degli animali dopo il minollo. Esatto, se non dopo c'è il minollo c'è lo spin-off. Lo spin-off, che è una razza di lo cane. Lo spin-off, che sì. E lui amava tantissimo, nonostante il suo cuore pazzerello non glielo permettesse, però lui voleva stare in campo, essere il numero 10. Facemmo una partita a Napoli, allo stadio, al San Paolo, contro l'Oro di Napoli, che era L'Apostoforo oppure l'Oro di Napoli. Sì, e sì. C'era anche Maradona, c'erate tutti, era Beh, dei ricordi meravigliosi. Un uomo straordinario, senza nulla togliere a nessun altro, però. No, insomma. grazie per ricordarlo così. Ma gioiosamente. Che... gioiosamente? Ma assolutamente, no, ci ammazzerebbe, ci viene a tirare le lenzuola di notte, Massimo. Non anche si... perché sennò è un po'. No. Insomma, è una seccatura abbastanza notevole, ecco, non sapere il suo punto di vista sulle cose di adesso. Esatto, è la cosa esatto. Che manca di più. Però mi sembrava carino disturbarti e ti ringrazio. Molto, molto anzi, bello, però ti aspetto anche bello. In trasmissione, Enzo, perché insomma bene, hai qualcosa bene, da raccontare. Adesso finisce piacere, la prof sì. 7, 8, che numero sei arrivato? Enzo? Aspetta che non vado a guardare un attimo che ce l'ho segnato dalla sopra, però ma sono più avanti di Rocky, quello è sicuro. La settima prof. Va bene, Enzo, ti voglio bene. Una buona domenica a te e ai tuoi e grazie davvero di aver festeggiato così il compleanno del nostro Massimo. Non è assolutamente difficile fare una cosa del genere. Enzo, un abbraccio forte a te, grazie a tutta la tua tribù. Ciao Carlo, grazie, ciao Enzo. Bene, Enzo De Caro, per sottolineare questo momento molto bello e importante, però visto che già il primo ospite d'eccezione, il primo attore doppiatore che si alterna, lo sapete perfettamente, tutte le domeniche a questi microfoni, non ho detto né nome né cognome, ma ascoltiamo la sua voce che anche lui sottolineerà oggi questa giornata dedicata all'inizio a Massimo Troisi, leggendo una poesia di Pablo Neruda che è Nuda, tratta ovviamente dal film Il Postino. Dopo ve lo presenterò con tanto di nome e cognome. Nuda sei semplice come una delle tue mani, liscia, terrestre, minima, rotonda, trasparente. Hai linee di luna, sentieri di mela. Nuda sei sottile come il chicco di grano duro. Nuda sei azzurra come le notti a Cuba. Hai vitigni e stelle tra i capelli. Nuda sei enorme e gialla come l'estate in una chiesa d'oro. Nuda sei piccola come una delle tue unghie, curva, sottile, rosea, finché nasce il giorno e t'addentri nel sotterraneo del mondo come in una lunga galleria di vestiti e lavori. E la tua luce chiara si spegne, si veste, si sfoglia e di nuovo torna a essere una mano nuda. Beh, non c'era un momento migliore per poter agevolare l'entrata della voce del bravissimo Paolo Buglioni. Benvenuto Paolo. Grazie, buona domenica a tutti. Grazie a te. Allora, Paolo Buglioni è anche un corpo, perché insomma è anche un attore, poi racconteremo. Anche bello, devo dire. No, vabbè, adesso non esageriamo, Paolo. È un corpo che insomma non devi il tuo successo al corpo comunque. Dai, siamo in due, dai. Io feci domanda per essere divo internazionale, Dove si fa? A Hollywood. Ah, la fai direttamente a Hollywood. C'è l'ufficio apposito, mi dissero che in quel momento i posti da divo erano tutti presi e mi dissero se vuole, in attesa, c'è da fare la voce dei divi. Dei divi di Hollywood. E tu hai accettato. E io cominciai con Gargamella, cioè che non era proprio, era un pupazzetto. Gargamella dei Puffi. Gargamella dei. E poi dopo ho fatto. E sto aspettando adesso che. No, ti preoccupare, è arrivato l'altro ospite che è Giuseppe, ma sta fuori la porta, credo. Sto aspettando che tocca il momento mio di uscire dalla voce e entrare nel corpo. Con la voce di un altro poi, perché mi doppierà Christian Jansante. Ah, beh, quello è sicuro. Di cui oggi è appunto la è festa. È il compleanno, ma evitiamo di chiamarlo, sennò si incavola con qualcuno sempre, per cui non lo chiamo. Mai. No, si incazza. Per cui hai cominciato con Gargamella tu? No, ho cominciato prima. Gargamella è quello che, essendo un pupazzetto che non passa di moda e sarà questo mio momento di eterna gioventù e di eterna popolarità per chissà, spero, tante generazioni. Ma quelli sono, è vero, i cartoni sono quelli che rimarranno per sempre, però tu hai fatto dei personaggi che rimarranno nell'immaginario collettivo, le accompagnate ce ne abbiamo da dire. Ce ne abbiamo, io non me li ricordo. No, è tranquillo, ci abbiamo noi degli autori straordinari, una redazione straordinaria. Grazie. E colgo l'occasione per salutare ovviamente Alessia Navarro e Mauro Meconi e Rachele come come caporedattrice di se stessa, e Alessandro, il nostro tecnico del suono immancabile tutte le domeniche, e dall'altra parte anche Milano che ci manda in onda. E quant'altro, c'è una bellissima collaborazione. No, tanta la capitale gente. Morale, Milano. Eh beh, no? Certo, quella che lavora. Se era il contrario, non li mandavamo in onda. No? Se, invece no, Milano è lì, puntuale, pure se stanno da soli, magari sono lì. E noi invece ci facciamo compagnia in qualche modo. Paolo, tu sei la voce di tante cose. Tu devi dire un grazie a Renato Izzo, a Peppino Rinaldi, in qualche modo? No, in qualche modo. Io devo tutto a Renato Izzo. Che è stato un grande di questo mestiere che sì, facciamo, l'abbiamo raccontato, e me lo ha insegnato come si faceva a quei tempi. Adesso non c'è più tempo per insegnare, non certo. C'è più modo di insegnare, invece lui aveva, e poi aveva questa grande capacità, conosceva il mestiere come nessun altro e me l'ha insegnato appunto, e ebbe fiducia in me. Io cominciavo come tanti, poteva scegliere me o un altro, scelse me per fare subito delle cose importanti. Ha creduto immediatamente, però devo dire che tu hai doppiato tre diversi personaggi in Quando si ama, per esempio, una soap degli anni 80. Tu hai doppiato tre personaggi diversi della stessa, vabbè, che come Beautiful hai visto quello che succede in fine, però uno dalla puntata 7 alla 204, sì, uno no, dalla, cioè, 1000 non insieme, alla... no, cioè, non insieme, perché si faceva a quei tempi, si faceva anche questo, che qualcuno doppiava insieme. Sì, succede, cambiavi voce, si rispondeva, no? Ogni tanto sì, succedeva anche questo, però io, ascoltiamoci per esempio un momento per far capire anche chi è l'amico Paolo Buglioni. Prenderei un Samuel L. Jackson, che tu accompagni spesso e volentieri, e ci sentiamo un momento di Iron Man. Tu sei Nick Fury, quello con occhio solo. Esatto, quello con occhio solo non si può sentire. È Samuel Jackson di Avengers, santa miseria. Con un solo occhio. Esatto, ecco. Con monocolo. È un monocolo. Benissimo. Ascoltiamo Paolo Buglioni dopo aver fatto domanda ad Hollywood per essere un diva internazionale, però gli hanno detto no, per ora contente di fare la voce anche di Samuel Jackson. Prego. Non voglio unirmi alla tua boy band super segreta. No, vedi, io mi ricordo, tu fai tutto da solo. E come te la passi? Non voglio cominciare con il piede sbagliato. Devo guardare la band o l'occhio? A dire il vero, i postumi di una sbronza. Non so se sei reale o se il delirium tremens mi sta... Io sono molto reale, sì. La persona più reale che incontrerai nella vita. Che fortuna. Ci sono i camerieri qui? Non promette nulla di buono. Ti presento l'agente Roman. Salve. Sono un'ombra dello SHIELD. Quando si è ammalato, il direttore Fury mi ha assegnato a lei. Dovrebbe porgermi le sue scuse. Sei stato molto impegnato. Hai nominato quella ragazza amministratore delegato. Hai dato via tutte le tue cose. Hai permesso al tuo amico di volare via con la tua armatura. Se io non sapessi come stanno le cose... Non sai come stanno, non gliel'ho data, se l'è presa. Ehi, c'era anche come? Lei. No, se l'è presa. Tu sei Iron Man e lui è riuscito a rubartela. Sei contento? Cioè, no, un grande attore questo, dai. Sì, lui è un grande attore davvero, è un grande attore. Tu pure c'hai una vociaccia un po' sporca da negrata, negro, non è una cosa volgare, si dice al doppiaggio, no, nero. Fatto una carriera con i neri, i poliziotti, i cattivi, e non credo di non aver mai detto la battuta che tutti sognano di dire ti amo. Io non ti è mai capitato, non c'è un film d'amore che annoverato nella tua carriera? Sono morto quasi sempre. Eppure dimenticato. Qualche volta arrivo a fine film, però in galera. No, spesso muoio. A proposito di questo, aprirei il secondo blocco, perché stiamo per andare in pubblicità, proprio con, a proposito di galera, con invece l'attore Paolo Buglioni, che è Romanzo Criminale. Per cui inviterei, visto che ce l'abbiamo, l'autore che era Fiero Locchio di Romanzo Criminale, che è Mauro Meconi, essendo anche autore di questa trasmissione, farei un bel duetto nel secondo blocco fra te e Mauro, ricordando anche questa serie straordinaria venduta in tutto il mondo. A tra pochissimo. E ricordate che Voice Anatomy è appena cominciata. Voice Anatomy. Bentornati signori, come promesso 14:46 primi e una manciata di secondi. Paolo Buglioni alla mia sinistra, alla destra ci ha raggiunto l'altro autore di questa trasmissione, che io ringrazio, Mauro Meconi. Visto che si parla, di attori in carne e ossa, Paolo, tu hai fatto Romanzo Criminale. Ho fatto Romanzo Criminale, sì. Ero lo zio di... Il nome del personaggio. Che personaggio? Non me lo ricordo. Tu stavi al bar, io no? Stavo al bar Franco. E sei Fra? Franco, il bar Franco, Era il padrone del bar Franco. Era Franco, io me lo auguro. Era Franco. Ma la cosa divertente che mi raccontava poco fa fuori onda è di questo bar dove lui ha fatto prima il provino. Com'è andata tutta la storia di Romanzo Criminale? Niente, il regista ebbe un'illuminazione quando mi vide e mi disse: se mi riesce una mossa ti faccio una sorpresa, ecco. Perché io ero andato lì per un personaggio di puntata, diciamo. Invece questa sorpresa consistette nel fatto che mi accaparrai questo personaggio del barista. Beh. Che però stava al bancone del bar e dove dicevano che tutto il film molto loro, la gente mi disse: guarda, ti hanno preso, stai sempre lì perché sei il barista e loro stanno sempre al bar. E loro stavano sempre al bar, però stavano nella sala biliardi. Stava dall'altra parte. Sì, ogni tanto si affacciava. Che succedeva? Una volta a puntata facevo: a secco, ti ha cercato tuo fratello, e me ne andavo. È finita la posa. In gergo viene chiamato bancomat questo. Bancomat. Sul set dici: a libanese stanno a cercare. Sei stato pagato. Partita anche la sigla, senti. Dai Franco, faccia il pezzo. Non c'è monologhi per quello, no. Ha detto. C'è solamente c'è un telefono. C'è che pio oggi Libano. T'ha cercato Madama. Che la polizia ha detto in romano. Cioè qui, insomma, è il personaggio. Perché non muori però qui. Lì non muoio e ho continuato a fare il barista, a fare i caffè, ho fatto tanti caffè, tanti cappuccini, Campari soda che prendevo, e vino bianco, lo spritz non lo prendevano. No, non era in voga, no, e poi no. Soprattutto nella seconda stagione lui si è dato. Non c'è stavi? No, io me ne so perché c'avevo altri impegni, non è che me ne sono andato per qualche cosa. Che fai? Io rinfaccio adesso, Mauro. Non c'è nelle domande che hai preparato. No, infatti. avevo altri impegni di teatro e non potevo assicurare la mia presenza a Roma nel periodo delle riprese. Ma tu sei morto nella seconda stagione, Fiallo Locchio? Io no. Non sei morto? No, io e pochi altri non siamo morti. Siete come pochi altri? Perché sono morti tutti. Quasi tutti. Ma è una cosa cimiteriale. Diciamo che il bufalo muore, ma muore nel flashback che si vede lì, anzi nel flash forward. È una pubblicità di prima porta del verano. Esatto. Però il bufalo, diciamo trentenne, è ancora vivo. Io sono vivo. Sperando in una terza stagione. No, ormai che fanno? Ormai è entrato con Morra, è entrato su E poi se non c'è Paolo, non accetto. C'è un pezzettino di Mauro o di Paolo? Mi diceva Alessandro. Di Mauro Meconi? Vabbè, ascoltiamocelo. Tu per parlare tanto sugli altri, sentiamo un pezzettino tuo, vai. Ma questi sono tempi difficili, buffo. Che ne ha sentito la radio? La lotta politica, morti in tre giorni. Oh, non è da che ci siamo questa stagione che viene. Certo, Cirolo, che tu la figa ce l'hai proprio qua, Sì, ancora. Te ne hai capito chi è questa? È una nuova, sta all'esquilino. Vabbè, ho capito, dai, ti serve un passaggio. Basta che te muovi. Avevo promesso la meglio figa di Roma, no? Ce l'hai proprio in testa. Vabbè, questo è il personaggio. Certo. Ah, è il personaggio. Hai capito? Vabbè, in questa lingua è un po' nordica. È un po' un neorealismo questo, quindi hanno scelto attori che avessero a che fare bene col tema. Col tema. E il mio tema erano le donne. Hanno scelto uno che ci capisse, tutto qua. Non è strano. Questa autocelebrazione non è neanche ospite, no, Paolo. No, ma è vero perché guarda che ci sono. Io che frequento il centro di Roma perché vi nacqui. E ci sono tante turiste che vengono sulla guida, c'hanno il Lonely Planet, che cercano, dice: do you know Mr. Occhio? Fiero Franco's Bar, lo cercano come come il caffè greco a scalinare di Piazza di Spagna, c'è proprio lui, e sono fatte così. L'errore è quello di averlo chiamato come ospite nel momento in cui è autore. No, vabbè, è stata una cosa bella, storica, insomma. Cioè, Romanzo Criminale è stato dato il via alla vendita all'estero del prodotto italiano, anche se esportiamo soltanto malviventi e assassini. È vero. Molto bene, diciamolo. No, è un fatto prodotto benissimo, fatto anche Gomorra, per carità, sarà anche Suburra sicuramente. Sì, non ci dimentichiamo. Sì, però insomma, come la prima volta, no? La prima volta non si dimentica mai. Ecco lì. Amore. Come romantico, è così, sulla propria fiction, come la prima voce. Tu la prima cosa che hai detto al doppiaggio qual è stata? La prima parola. Questo ricordo. Non sei preparato sulla prima. Era un postino, questo te lo posso dire con grande certezza. Era un postino. Però tu devo aver detto raccomandata. Ecco. Non era, così però. Era un film francese, avrò detto Recommendate. No, l'hai detto in italiano, ma dai. Però il tuo amore non è soltanto ovviamente il cinema, non è soltanto il doppiaggio, sei soprattutto dondo il teatro. Il teatro non l'hai mai lasciato. Il teatro non cerco di non lasciarlo mai, anche se è pesante, sempre più pesante, anche perché difficile, certo. Invecchio. E richiede tempi, orari, fatiche inenarrabili, soldi non ce ne sono, come sapete. Allora si fa un po' come un hobby, come un secondo lavoro. Dopo gli altri lavori, quelli che, con cui possiamo pagare l'assicurazione, la scuola del figlio, tutto quanto, facciamo il teatro. E il teatro è, consiglio a tutti di farlo, attori e non attori, agli attori perché così imparano a recitare che non è mai male e ai non attori perché è una medicina, meglio è terapeutico, bravo, quello, no? È molto bello. Vi ricordo ovviamente i nostri numeri, il nostro numero 349 238 66 66 per gli sms, e se volete partecipare, non ho detto più, in effetti potete anche telefonare, anche se non è una radio a richiesta e voi fate le vostre richieste attraverso gli sms, comunque 800 24 00 24. Che fantasia anche questa, Radio 24. Io mi ascolterei un altro Paolo Buglioni dannata. Ascoltiamolo. Io mi sentirei un Forrest Whitaker, dove tu, lui, Whitaker, ha vinto. Forrest Whitaker. Whitaker, scusa, perdonami, io con l'inglese non ci appiccico, come dice qualcuno. Avrei detto pure io Whitaker, però. Whitaker, sì, vabbè. Whitaker, va bene. Ma lui ha vissuto molto a Hollywood, per cui lo sa. Ho fatto domanda. Hai fatto domanda, ma non l'hanno accettata. Nell'ultimo Re di Scozia, che è valso a Forrest Whitaker l'Oscar come migliore interpretazione maschile. E sentiamo se tu sei stato degno. Degna voce di questo degno corpo. Prego. Ah, lo vedi? Nicola, sei d'accordo con me? Tu sei molto più brutto di me, Moyenga. guarda Nicolas, aspetta, c'è anche fa tutto parte della strategia del capitano Masanga per la mia sicurezza. Furbo, eh? Sì. Nicolas, mio Nicolas, cos'è questa storia che vuoi tornare a casa? Il tuo lavoro non è ancora finito, Nicolas. Ma io non sono venuto qui a finire qualcosa. Mi hai fatto una promessa. Devi aiutarmi a costruire un nuovo Uganda. Hai fatto un giuramento. Bellissimo film. Molto bellissimo. Bello, molto neanche bello. Facile, non è un caso che tu hai doppiato tu, perché Forrest Whitaker è stato un po' rimpallato fra varie voci, invece questo film... Io l'avevo già doppiato forse nel suo primo film importante, che era La donna del soldato. Bellissimo, un altro film. E forse qualche altra volta, però sì, come capita negli ultimi 20 anni... rimbalza. Era film di Neil Jordan, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, con quel colpo di scena finale e quella musica, quella colonna sonora... bellissima. Senti, amico mio, per cui parliamo di teatro, però nel prossimo blocco parliamo di teatro, perché fra un po' sarei in teatro, visto con Jack Kerouac o qualcosa del genere. La prossima settimana, i prossimi 3 giorni, faccio un esperimento, vediamo che succede, un recital in cui leggo le con poesie l'orchestra jazz. Con un'orchestra jazz, insomma, con un gruppo jazz in cui tenterò di essere uno strumento del gruppo. Tra i poeti americani della Beat Generation e il jazz ci furono tanti punti di contatto. Beh, tanti. E allora pensavo proprio di dire queste cose come se la poesia fosse un assolo, dopo l'assolo di saxo, l'assolo di contrabbasso, l'assolo... Che teatro, Paolo? Teatro Agorà, in via della Penitenza a Roma. Quella Trastevere, no? A Trastevere, venerdì, sabato e domenica. Vediamo se funziona. È pure una bella scusa, se non me menano... per venire a Trastevere, ma sei un esponente giusto, la tua bella vociaccia è giustissima per accompagnare nella Beat Generation. Beh, poi sono quasi americano, insomma. Sì, in effetti, dopo quella domanda si può dire che sei americano. A tra pochissimo, signori, con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati, signori, sono quasi le 15, mancano una manciata di secondi. Il mio amico Paolo Buglioni, grandissimo attore, doppiatore a tutto tondo, è qui. No, ero attore a tutto tondo prima. Anzi, pure doppiatore. Beh, anche, ma ormai, come, amore, hai doppiato quasi 1000 film. Cioè, come Olimpiadi, sono 5 volte a tutto, sei a tutto tondo, perché tutto fai tondo. Teatro, fai televisione, fai il cinema e fai il doppiaggio. Cioè, qual è il tuo core business, come si dice, visto che siamo a Radio 24? Mi sembra il giusto. Core business è il doppiaggio. È il doppiaggio, cioè, il tuo core business. È a tutto tondo. È a tutto tondo il doppiaggio. Per cui l'altro sono magari a 320 gradi, altro a 180. E il teatro invece è l'amore per tutti gli attori. Per chi veramente ama questo mestiere è il teatro. E mi ha detto che la prossima settimana, 3 giorni all'Agorà, Via della Penitenza a Trastevere, un teatro off molto carino, elegante, storico di questa Roma, dove mi sembra giusto che tu ci accompagni in questa Beat Generation, questo gruppo jazz elegante, divertente e anche affascinante. Tu alcolizzato, no? Sulla scena, no? Che devi accompagnarci sulla Route 66. Beh, c'ho varie, svariate bottiglie di tè freddo che funzionano. Che fanno finta di essere whisky. Finta di essere whisky. Questo è quello che racconti. Invece whisky che farà finta di essere freddo, dai. E ci sarà Luca Iacovella al pianoforte, Valerio Serangeli al contrabbasso, Thierry Valentini al sax tenore e io che mentre loro suoneranno questi pezzi di bebop, bebop di Charlie Parker, io leggerò ad esempio Lawrence Ferlinghetti. Per esempio, ma aspetta, vogliamo un momento, dobbiamo cercare una musica bebop mo, Charlie Parker, Alessandro. Ornithology. Un pezzetto di Charlie Parker, ma insomma io devo dire che dei tecnici è una redazione sempre pronta, visto che Mauro Meconi invece è qui come artista ospite, ma è finito il paragrafo romanzo criminale di tornare sì, a fare l'autore. Ero rimasto così per compagnia, se vuoi vado via. Vattene, okay, devi riprendere. Stai. Questa ti va bene? Beh, proviamo, vediamo. Che cos'è, Alex? Charlie Parker? Beh, Sava Sandia. Vai, Paolo, yeah. Il mondo è un gran bel posto per nascerci. Ah. Se non vi dà fastidio che la felicità non sia sempre poi tutto sto spasso. Se non vi dà fastidio un pizzico di inferno di tanto in tanto, proprio quando tutto fila liscia, perché perfino in paradiso non stanno sempre lì a cantare. Il mondo è un gran bel posto per nascerci, se non vi dà fastidio che la gente muoia di continuo o magari stia solo morendo di fame ogni tanto, il che non è poi così grave se non si tratta di voi. Ah, il mondo è un gran bel posto per nascerci, se non vi dà fastidio più di tanto qualche mente morta tra gli alti papaveri o un paio di bombe di tanto in tanto sulle vostre facce rivolte all'insù o altre consimili sconvenienze di cui la nostra società marchio aziendale è preda, con i suoi uomini distinti e i suoi uomini estinti e i suoi preti e gli altri vigilantes e le sue svariate segregazioni e le investigazioni parlamentari e le altre stitichezze di cui la nostra carne cogliona è erede. Sì, il mondo è il posto migliore di tutti per un sacco di cose, tipo prendere parte alla scena divertente e prendere parte alla scena d'amore, prendere parte alla scena lacrimosa e cantare canzoni sommesse ed avere ispirazioni e passeggiare guardando tutto e sentendo il profumo dei fiori e toccando il culo alle statue, perfino per pensare e baciare le persone, per fare bambini e portare i calzoni e salutare sventolando il cappello e per ballare e andare a nuotare nei fiumi o a fare picnic in piena estate, in generale proprio per spassarsela. Sì, ma poi proprio sul più bello arriva sorridente il becchino. Yeah, con Summertime sotto non è niente male. E vabbè, facciamo questi esperimenti. Ma sono meglio esperimenti, dai. Lo so che adesso è un momento difficile per il teatro, per tutto, sempre. Però queste sono cose che ti fanno rifar pace con tutto, secondo me. Una serata lì a Trastevere, un bello spettacolo teatrale che ti accompagna in una vita che magari non conosci, che hai sentito soltanto, che te la fanno respirare in questo modo, con l'orchestrina jazz dal vivo, la voce dal vivo. Dopo una bella pizza a Trastevere, un doppio whisky, doppio malto all'obitorio. Ci sta all'obitorio, che sarebbe un ristorante tipico a Trastevere che si mangia sui talvi di marmo, per cui si chiama l'obitorio per quello, e si mangiano belli buoni supplì. Non è pubblicità, quella è sanezza di corpo questa. Ci mandano parecchi messaggi, fanno tanti complimenti. Qualcuno, la prima parola doppiatore, dice a Ivan, qualcuno dice non te la chiedo Pino perché so con quali film hai cominciato. Sì, la mia prima parola doppiatore è stato questa. Torre Spaccata ti ascolta, caro Ferio Locchio, con rispetto. che non so se Mauro sta sentendo, che sta di là, e eccetera, eccetera, eccetera. Però, insomma, questo non sei soltanto Samuel Jackson, non sei soltanto Forest Whitaker, ma sei storicamente Nick Nolte. È vero, il buon vecchio Nick Nolte. Nick Nolte. Oddio, ho capito, ma non mi puoi ripetere. Nick Nolte, qui non lo dice nessuno. Non lo dice nessuno. Neanche io, devo dire. Dai, Nick Nolte. Nick Nolte. Nick Nolte, quello che parla con la voce tutta rotta, perché sembra un altro bell'imbriacone. È uno che ha mollato. Ogni tanto ha lasciato il cinema e poi è tornato insieme a Richard Dreyfuss, lui. Bello e Midler, perché ha un esagerato. Ogni tanto smaltiscono, ma questi fanno presto, si ingrassano, poi dimagriscono, poi se fanno qualsiasi cosa, poi si svuotano. Ma sono americani, questi sono americani. Si cambiano il sangue, tu sono mai cambiato il sangue? No, hai fatto domanda, ma non... Io ho fatto da divo, con tutto quello che... Ma c'è ancora possibilità che qualcuno ti risponda da Hollywood? No! E non so, io ogni tanto, se c'ho il numero di pratica, ogni tanto telefono, ma me lasciano lì. Due ore in attesa. Hold on! Senti, allora, ascoltiamocelo, un Nick Nolte... O Nick Nolte, come si dice, in un film bellissimo che è La sottile linea rossa, un film di Samuel Fuller, che ha fatto pochi film, ma quei film tutti passano alla storia in qualche modo, certi un po' sopravvalutati secondo me, però questo invece è un grandissimo film di guerra. E tu sei un Nick Nolte. Allora, prima di dare, adesso mi è venuto in mente, di. E vorrei con questo mandare un saluto a Nick Nolte. A Nick Nolte, a un attore che si chiamava Tonino Accolla che diresse questo film. Il grande Tonino. Dobbiamo fare una puntata su Tonino, sulle persone che non ci sono più, che hanno regalato tanto a questo mestiere, che hanno... ha regalato veramente anche nell'immaginario collettivo. Se pensate alla risata di Tonino Accolla su Eddie Murphy, è passata alla storia più quella di Tonino, perché poi Eddie Murphy non sorrideva così, quella se l'ha inventata proprio Tonino, l'ha allungata e l'ha resa la faceva in un modo particolare, ma così come molti altri. Per cui sicuramente insieme ai nostri amici storici del doppiaggio ci faremo una passeggiata, una puntata intera, anche di più di una puntata, ricordando questi grandissimi che ci hanno regalato veramente dei sogni, perché poi le voci è l'elemento di comunicazione più importante. La colonna sonora della vita. Eh sì, è quella. Più della musica, ma insieme fanno tanto. E allora... Bene, hai fatto benissimo a ricordare Tonino, lo cerchiamo sempre di ricordare tutte le persone che ci hanno accompagnato. E intanto ascoltiamoci però un Nick Nolte dannata con questo la sottile linea rossa. Vai! Mi sono spaccato la schiena, ho leccato il culo ai generali, mi sono genuflesso. Per loro, la mia famiglia, per la mia casa... Tutti i sacrifici che i miei genitori hanno fatto per me sono svaniti come acqua nel terreno. Tutto quello che avrei potuto dare per amore. Troppo tardi. È morto lentamente, come un albero. Bel momento intenso questo, eh? Ma ero bravo. No, sei bravo, stai qui, dai. No, sei bravo, perché ancora tu ti diverti. E devo dire che noi chiamiamo tutti zio a Paolo, da sempre. Sei sempre stato zio per tutti. Sì, poi sto cosa che però che mi fai sempre sti film dannata. Mi fai sempre queste cose dannata. No, ma gli ultimi non ce li ho, Paolo. Non è che si trova. Già è difficile riuscire a selezionare, a scaricare un momento importante di un film. Non è facile. Che stai facendo ultimamente nel doppiaggio? Serie? Adesso mi hanno messo a fare il direttore, a cercare di trasmettere ai giovani. Sei stato direttore anche storico di Beverly Hills 90-210? Ne ho fatto un paio di stagioni. Quello storico. Quello storico. È cambiato un po' il doppiaggio da quel giorno. È cambiata la tecnologia, sono cambiati i ritmi, è cambiato il mondo, è cambiato pure il doppiaggio. Che stai dirigendo adesso? Adesso sto dirigendo due seriali americani. Uno si chiama Brooklyn 99, Brooklyn 99. Ormai capirai con la Big Generation. Ed è una situation comedy molto simpatica. Credo che in America abbia vinto dei premi. Come... Sì, Rachele dice sì, lei è informatissima. Adesso voglio sapere quanti e quali. Un'altra serie, The Pitch, che è la storia di una ragazza, una donna che arriva nel baseball professionale e gioca in una squadra di maschi nei San Diego Padres. Storia vera? Sì, pare che sia vera. Sì, gli americani si raccontano. E poi adesso devo cominciare un film spagnolo, Nuestros Amantes. Nuestros Amantes, due Golden Globe, allora ha vinto Brooklyn 99, vedi, è arrivata immediatamente la notizia. Adesso un film spagnolo. Adesso un film spagnolo. Tu parli spagnolo poi tranquillamente. Lo fischio pure. Lo fischio non è male, amico mio. Qualcuno mi dice che La sottina linea rossa, il libro è meglio del film. Non c'è la mia voce nel libro. Esatto, però. Qui parliamo ovviamente sempre un libro, quasi sempre un libro è meglio di un film. Se leggi prima il libro è difficile che il film ti dia le stesse emozioni, anche perché ti fai il film nella mente e succede la stessa cosa. Senti, stiamo andando un po', abbiamo ancora un po' di minuti per questo blocco, poi dobbiamo quasi salutarci e dare lo spazio al mitico Jocelyn, che ti farò incontrare. Ti ringrazio. Jocelyn quanti anni avrà secondo te? Tutti? Beh, idea. C'è da sempre. Io lo vedo, sembra che ce ne abbia 30, però sì, no, lui è sempre io così. Me lo ricordo da sempre. Facevo la prima comunione la lui sera, c'era ed era già grande. È già grande. Già faceva i quiz, i giochi, le cose. Ed era già grande. Ed era bello anche perché lui fa con questo discinto. Non lo lui deturpignattare in realtà. Però c'ha sta R così, si è inventata una professione. Vabbè, ci ha fatto un mestiere. Esatto, lui è un doppiatore di se stesso, lui si doppia ma in realtà non parla come, così. Come Mal di Primitives. Esatto, pure lui è figlio, lui parla lui è della Dispoli. No, lui è della Dispoli, pure lui è malano, è un altro nome. Senti, io voglio ascoltarmi un pezzo però prima di salutarti ancora, che è Bruce Willis, che anche Bruce Willis è stato palleggiato attraverso varie voci. Tu l'hai doppiato in Four Rooms, un film anche di Tarantino, Rodriguez, insomma quattro episodi. Con Renato Izzo. Con il grande Renato Izzo, che c'è sempre, proprio un massimo comune divisore proprio. Non si sente perfettamente, perché è stato difficile trovarlo, però noi lo mandiamo in onda ugualmente, perché è un momento di grandissima recitazione. Grazie, allora grazie. Ci tenevamo a farlo. Allora ascoltiamolo, Bruce Willis, non dannata, anche se è dannata pure questo, però con la voce di Paolo Buglioni, Four Rooms, prego. Cazzo, non attaccare il telefono, ti prego, non chiudere, non farlo, ti prego, ascoltami, vaffanculo, ti giuro che se attacchi, brutta puttana, se fai la tremenda cazzata di attaccare, al diavolo l'avviso di chiamata, guarda che se chiudi io divorzio, cazzo! Leo, datti una cannata, Leo! Ma perché si comporta per sempre? Ma perché è così cambiato, l'abbia visto Allen? Adesso prendo la macchina, arrivo fino a Malolland, l'afferro per i capelli, la trascino fuori da quella casa e la scaravento giù da quel cazzo di canyon. Sei ancora sposato, Leo? E chi lo sa, non ci capisco più niente, Norman, te lo giuro, Norman, te lo giuro. Ma che cazzo vuole? L'ho sempre trattata come una regina, tu lo sai, no? Lo so. Solo che ho bevuto troppi drink, ma è questo cazzo di Capodanno, no, io non la guido fino laggiù la macchina, ok? Mi dispiace tanto, ma che vuoi che faccia? Che prenda una macchina e metta sotto sei o sette ragazzini innocenti? È questo che vuoi, eh? Ma che cosa le ha preso la mia piccola Ellen? Ah, bella, bella tirata, eh? Grazie, non me la ricordavo proprio, grazie. Leo era il personaggio. È stato un bel regalo, grazie. Ma il regalo ce l'ha fatto tu, sono film non facili da doppiare. Ma ridare questa umanità. Io sono sempre molto orgoglioso del lavoro che facciamo, che fate, ed è rispettato in tutto il mondo. Ed è portato ad esempio in Europa. Gli americani portano sempre il doppiaggio italiano come termine di paragone per cercare di far doppiare i film nella stessa maniera. Poi un giorno rinvitiamo Luca Ward, che ha una conversazione molto interessante per quanto riguarda il doppiaggio in tutto il mondo. Ci ho parlato l'altro giorno e ha tirato fuori dei motivi molto validi che non conoscevo. È inutile che ripeto io, lo faccio ripetere a lui questa diatriba sul doppiaggio, quanto siamo forti. E ti chiedono mai qualche frase per la strada dei film che doppi, ti è mai capitato? Me la chiedono, ma io purtroppo sono sempre ti scordi, mentre non so ma che non so che dire, ma mai, non lo sai. No, mi chiedono sempre le dice Sgargamella. Fammi la voce di Tywin Lannister del Trono di Spade. È vero che sei anche il Trono di Spade tu. E però io non mi ricordo che diceva questo. È vero, non è che uno se lo ricorda. Posso aver detto sono Tywin Lannister. Sì, no, così Lannister de Torpignatta. È diventato romanzo criminale. Qualcuno mi chiede di invitare i figli del grande Alvaro Amici, già fatto, già ma Fabrizio Amici è venuto, ma tornerà ovviamente. I grandi persone che fanno ancora le serenate, pensate, le serenate com'è? Bellissime. L'unica sfortuna del grande Alvaro che morì lo stesso giorno di Alberto Sordi, per cui è passato un attimo così in cavalleria, ma noi lo ricordiamo. Paolo, rimani un attimo ancora, vi alternerete con Jocelyn, però rimanete un blocco insieme. Va bene, piacere che vi incontriate, no, e parliamo insieme. E noi invece andiamo a pubblicità, tra pochissimo, come sempre, torniamo con Voice Anatomy, con Paolo Buglioni che ci accompagnerà ancora un po', e introdurremo il grande e bravo Jocelyn. A tra poco. Voice Anatomy. Eccoci, siamo stati rapidissimi, soltanto il traffico, non ce n'era poi così tanto, sono le 15:15, anzi quasi le 15:16, Paolo si sta accomodando alla mia destra, alla mia sinistra invece Jocelyn Attab. Bonjour a tous. Ecco, adesso ci fa sentire degli ignorantoni, Paolo, capito? Abbiamo parlato di romanzo criminale, delle cose, eccetera, adesso bonjour à tout le monde. No, bonjour à tous. Buongiorno a tutti, significa a esatto. Te. A tutti. Ok. Tu sei noto, sei Jocelyn. È come sì. Edoardo De Filippo è solo Edoardo, tu sei solo Jocelyn, non sei a tavola. O come Fernandella. Certo. Hai capito come sta? Come state? Maradona. Esatto. Cioè, è così. È gente con un ego molto piccolo. No, perché io ho un cognome che tu conosci benissimo. Sì. Che in francese suona come a tavola. A tab. A tab. E quando ero piccolo mi prendevano in giro. E allora ho detto, perché dare spazio a chi mi può prendere in giro? Che bello questo messaggio. Jocelyn c'è da sempre, è Highlander. Perché non provo a tagliare la testa per vedere? Possiamo cominciare con un dito, per favore? Sì, no, perché nel film, te lo ricordo, sì, taglio una testa e se muore davvero. Ogni tanto devo dire che gli ascoltatori sono veramente straordinari. Sono straordinari. Hanno le adoro. Sì, hanno una sintesi pazzesca. No, è divertente. È vero che c'è. Tu sei, possiamo dire, dove nasci? Tu nasci a Tunisi, intanto. Esatto. La Francia, perché la Tunisia era francese, era sotto protettorato francese. Ma mamma e papà erano tunisini. Ah, tunisini. Sì, sì, berberi. Berberi, che non è un barbaro detto a no. Bari, in Puglia. No. Cioè, berberi, che non è detto berberi. Da... Berberi erano, i berberi sono. No, che... Paolo, i berberi. No? I berberi. Sono i berberi. Sono popolazione... Mi sembrate un film donne cieco... Il sottotitolato in rumeno. I berberi, parlami dei berberi, sono una popolazione. Gli occhi, per esempio. Azzurri? Eh sì. Non è pieno di sé, Jocelyn, sapete? No, però è vero. No. Ha cominciato che la gente lo ama, perché ormai è ovvio che c'è molta ironia in tutto questo, però gli occhi ce l'ha azzurri, Jocelyn. Però qui l'esperto di donne è Fiero L'Occhio. È Fiero L'Occhio. Le donne berbere sono bellissime per... Sono belle donne e berbere. Sono belle. Se vedessi, ma perché non lo sapevi tu? No, non c'avevo mai avuto una donna berbera. Ma non c'è bisogno di avere. C'è uno donne... che si chiama Barbara. Che non sa pronuncio male la berbera, ma no, non lo so. Per cui occhi azzurri è, sì, è una cosa un tratto. Antropologicamente, esatto. È un tratto gli occhi azzurri. Sì. E poi siamo di una simpatia, di un'ospitalità formidabile. E poi fanno sempre i giochi, loro tra di loro fanno sempre i giochi. E nascono così. Corse di cammelli. Corse di cammelli. Quanto... Cercare di far camminare insomma, un asino. Siete occhi azzurri e simpatici, di, esatto, partenza. Di partenza. La lingua è la berbera? No, è no. L'arabo del luogo. Perché tu lo parli ancora? Sì, questo qua. quello del luogo. Esatto, che tunisino. Anche se lo parli per noi va benissimo, puoi dire ciò che vuoi. Però poi la Francia, perché poi la Francia. Poi sei andato a vivere in Francia. Sì, perché poi c'è stato un po' di macello, un po' di rivoluzione, di cose. Strano, quei posti sono così tranquilli. E, no? E mio padre e mia madre hanno voluto preservare praticamente i loro figli e ci hanno portati in Francia. In Francia, dove ho conosciuto la radio, giustamente all'inizio. Qualcuno mi parla della. Ci saluta, ci ringrazia. Cioè, abbraccio il tuo ospite, il teatro, la citazione, l'anima storica, la realtà. Tutto sta nel recitare la vita. I love you, Edith Piaf. Lui ama Edith Piaf, Mia Martini, Egalité, Fraternité, Liberté. In onore tuo. Parlano in francese, ma come vedi, si regolano a seconda degli ospiti. Prima mi hanno detto Torre Spaccata è tutta con te. E c'eravamo con Paolo e parlavamo di romanzo criminale. Adesso parliamo della Francia, eccetera. Qualcuno parlerà pure della civiltà berbera, sicuramente. Sicuramente. Però grandi origini queste cose. Ben bello. E poi la dignità di queste persone, che è straordinaria. Io sono cresciuto nell'onestà. Tu sei cresciuto a Tunisi fino ai primi anni della tua vita, no? Sì, fino a 11 anni, fino al 56. Fino al 56, tu sei nato nel 45, a dicembre, il 5 dicembre, esatto. Del 45. E il 22 novembre, sì. Non mi ricordo più se è il 22 o il 23, del 62 o del 63, faccio sempre, è morto Kennedy. Io ero in onda. Nel 63. Ero in onda, dunque il 22 novembre. E stavo organizzando anche il mio compleanno. E diciamo, in onda dove? Dove stava? Su France Inter, che è la radio nazionale, diciamo. E c'era uno spazio per i giovani, gestito dai giovani che erano dietro il microfono. E questo giorno i grandi, diciamo, quelli nostri maestri, sono andati via tutti. Mi ritrovavo davanti al microfono da solo. E mi arriva questa notizia dell'assassinato di Kennedy. Bisogna cambiare assolutamente la programmazione, musica classica, cose, e di annunciarlo perché i giornalisti non erano pronti. Io non avevo ancora 18 anni perché dovevo compiere, grazie. Il 5 dicembre, e hai visto i miei occhi come ti hanno chiesto aiuto? Ma no, sì, ormai sapessi quante volte mi hai salvato tu in trasmissione, amico mio. Vabbè. E niente, mi sono ritrovato da solo davanti a questo microfono a dover annunciare la morte di Kennedy, insomma l'assassinato prima e poi la morte. La radio per me è una cosa. Ma io credo che la radio, insieme, lo dico sempre, insieme a un buon libro sia l'elemento evocativo più bello che c'è. E della televisione senza immagine, nel senso che attraverso le nostre voci dobbiamo far immaginare il mondo, quello che vogliamo far passare, quello che vogliamo dare. Assolutamente. E la nostra voce, e tu lo sai. No, ma infatti basta un po' di musica, un effetto sonoro, ecco lì che sei già da un'altra parte. Se adesso ci fosse un po' di pioggia e la musica giusta sottofondo, eccetera, tu dici, beh, siamo a Londra. Esatto. Nel 1956, la gente comincia a essere freddo anche a casa. Non ti vedo, Pino. Capito? Esatto, perché ci sta tutto. Per questo la radio è bella. E la radio, mi fanno ridere quando fanno la radio con le telecamere. Si chiama televisione. Sì, televisione è fatta male. No, esatto. Per cui non è un libro, quelle figure si chiama fumetto. Bravo. Per cui mi compro un fumetto, insomma. Ma il microfono diventa una telecamera attraverso le nostre voci. Le nostre voci diventano veramente quello che riprende la vita. Hai capito? Tu pensavi, Paolo, che c'hai di fronte non un autore di grandi giochi, di grandi trasmissioni, un grande filosofo della radio. Sarà l'età, i 113 anni si sentono a un certo punto. Ma Pino, te ci mando subito o aspetto ancora 5 minuti? In berbero, mi ci mandi in berbero? In berbero com'è? Emshineyek. Che bello, mi ha mandato a cagare in berbero. Che bello, voglio dire a Cruciani queste nuove terminologie che può usarle tranquilli. Ma pensa, c'è qualcuno che conosce perfettamente il tunisino berbero. Ma guarda, l'ha capito perfettamente. Sì, sicuramente. Ma tanto, non so, chiedo aiuto ai miei radioascoltatori, miei, perché aiutati. Carissimo Giuseppe, puoi farci sentire il suono della lingua berbera? È questo. Imshineyek. No, quella è una parolaccia. Ma che bravo. Già l'ha detta. Sì, sì, ma è una parolaccia, ragazzi. Non ripetere più di tanto. Ma l'hai pronunciato molto bene. Mi dico, beh, la parolaccia, non fate i complimenti come si pronuncia una parolaccia, ma vi prego. Ma lo sappiamo solo noi. Ho capito, qui parlano di varie cose e poi fanno i complimenti che l'unica alternativa alla Rai era la TV svizzera e Joselena, Wanagana, c'era Wanagana pure. Sì, a un certo punto mi traduceva perché non parlavo italiano. Io ho imparato l'italiano mandando in onda i film di Ciccio e Franco. Ciccio e Franco e Ciccio. Ciccio. L'hai alternati perché in Berbero è prima, sì, prima l'altro. Basta con questo Berbero. Ho capito. È Gian Enrique in Berbero. C'è una bellissima storia. Davanti a Viale Mazzini le incontro. E come stai? Allora che non le conoscevo io personalmente. Insomma, ci conoscevamo attraverso lo spettacolo e gli faccio: ma sapete che parlo italiano grazie ai vostri film che mandavo in onda su Telemonte Carlo? E Franco ha detto la più bella frase: è per questo che lo parli così male. Franco è persona carina, anche Ciccio Ingrazia, anche questi sono bellissimi ricordi, è bello. Anche Don Lurio sentiva qualcun altro e parlavano in quella maniera. Tanti complimenti, caro Joselen. E c'è uno che ci manda uno scioglilingue per doppiatori, faglielo dire a Paolo Buglioni. Nel bar barbaro del bar berbero, la star tartara da mormormora. Mamma mia, Marco mio, è una condanna, no, per frode, sono molto attenti, sono veramente molto attenti. C'è Rapino che mi ha fatto impazzire durante Reazione a Catena. E ci siamo fatti cinque anni insieme. Sì. Con un sciolilingue che aveva... Vuoi quei kiwi? Mi ha fatto impazzire. Che è difficile dire vuoi quei kiwi veloce, prova a dirlo. È impossibile, vuoi quei kiwi. È difficile. E non sono capace. Ma non lo so capace neanche io a dirlo veloce, non si può dire. Poi ho sempre doppiato i neri non lo dicono. No, vuoi quei kiwi, non lo dico. No, quello no. Senti, qui tu hai fatto l'Accademia Nazionale, il Conservatorio Nazionale d'Arte Drammatica a Parigi? Sì. Dove c'era musica e recitazione o solo recitazione? Recitazione, ma io ero nella classe di direttore di scena, che si chiama... Infatti a 17 anni eri già direttore di scena dell'importante teatro di operetta parigino, Le Théâtre du Châtelet. Du Châtelet, che era il più grande teatro del mondo all'epoca. Esatto. E tu eri già direttore di scena. Sì, cioè, ma eravamo in tre. Ho capito, c'era quello, un ruolo già importante. Côté jardin, côté cour. Perché in Francia c'è una cosa bellissima. Vogliamo parlare di teatro un attimo? Sì, grazie. Voi sì, quanto siete su un palco e che c'è un regista che è in sala che vi dirige, quanto vi dice vai sulla destra, ma la sua o la tua? Sì. Non vi capite di solito. Beh, sì. In Francia... In genere è quella dalla platea. Sì. Ma dipende, io magari posso tanto immaginare. È confusionale. Invece all'epoca di Molière hanno inventato una cosa. Che la parte che si trova a destra dell'attore è la parte giardino, perché c'era un giardino nel teatro. Beh. E la parte sinistra è cortile, perché c'era un cortile dall'altra parte del teatro. Dunque era molto facile, quando dirigi qualcuno e fa vai a giardino, sapeva che l'attore faceva questo movimento, insomma andava... Jardin e cortile a destra e cortile a sinistra, esatto, hai capito? Noi invece facciamo un muro a destra e un camerino a sinistra. Ma è bellissimo, in più lo trovo molto poetico. E io ero direttore di scena della parte giardino, che chissà perché. Ma non lo so perché. Non lo so, però a 17 anni essere direttore di scena il più grande teatro del mondo. Con tre ascensori. Capisci? 120 metri. Anche perché il direttore di scena è quello che sa fare tutto, che sa coordinare quello, il tecnico delle luci, il tecnico del suono, gli attori. Rimpiazzare gli attori. 120 metri di profondità. Di profondità, 90 di apertura. Ma c'è ancora? Sì, sì, e come no. Hanno tolto gli ascensori purtroppo. Che bello. Devo dire che la Francia in questo è molto attenta. La domenica c'era una cosa bellissima. Tra la pomeridiana e la serale c'era i concert Colonne. Concert Colonne è un signore che ha creato questi concerti e ho visto i più grandi maestri, da Rostropovich, passando da un nome... Facevano da cuscinetta i due spettacoli, esatto, insomma. E dove c'era un pubblico che veniva a sentire questi concerti classici. E poi rimaneva per lo spettacolo serale. Ho visto ma che due. Bello, che bello, complimenti. E io facevo tutte e due. Allora, andiamo un attimo ovviamente in pubblicità, torniamo subito con l'amico Joselen e se vuole Paolo rimanere ancora per me. Oh sì, un piacere. È un piacere per tutti. Grazie. A tra pochissimo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Voice Anatomy. Eccoci, stavamo ricordando quanto sei nerd nell'elettronica e in tutte queste cose, Giuseppe? Che vuol dire nerd? Ma non lo so esattamente, però è uno, idiota. Uno studio... No! Eh sì, è per questo, però in lingua... svegliati. No, bello. Però in lingua berbera significa uomo meraviglioso con gli occhi azzurri, giuro. È vero, Paolo? Ha voglia! È così, è così. Sì, meno male che c'hai gli occhiali. Sì, ma che gli occhiali, esatto, solo gli occhiali bianco-azzurri, solo quello, un po' di cuore. Tante domande. Ciao Giuseppe, trovi la differenza tra il doppiaggio francese e quello italiano? No, sì. Questo te lo diciamo noi. Sì, no, ve lo dico francamente io. Quanto voglio vedere un film, scelgo sempre il doppiaggio italiano. Grazie, basta così. No, ma è vero. In più, i francesi sono molto più meticolosi nel doppiaggio perché hanno la banda ritmo. Esatto, sotto il film scorrono le parole che uno deve doppiare, mentre noi abbiamo il leggio, con l'intonazione, e con l'intonazione. Anche l'intonazione. Sì, sì, c'è una curva che ti permette di avere gli accenti tonici e l'emozione, tra virgolette. Ma viene veramente una catastrofe. Eccolo lì, la voce abbiamo chiesto a uno, lo sa, Paolo, non abbiamo detto noi, va bene? Ma infatti noi siamo più bravi perché non ci abbiamo tutte queste cose, però e riusciamo... entriamo dentro gli occhi della gente. Bravo, bravo, ma veramente mettete un sentimento. Una cosa che delle volte va bene, succede che un labiale, perché le cose non si possono essere proprio uguale, però c'è questo sentimento, e so, grazie a Pino, che delle volte arrivate in sale di doppiaggio, non sapete neanche la trama. Io seguivo un telefilm, facevo a Pino, oh, ha doppiato questo, e gli fa, eh sì, perché ci sono tante tette al vento, mi faceva lui, perché non sapeva niente della storia. No, ma su una scena, la prima scena che c'era due donne nude, quello è un porno, che cos'era? No, era Spartacus. Spartacus, ah, Spartacus, sì, non lo sapevo, è vero, c'era la doppia versione. Io ho doppiato la seconda stagione di Spartacus, ero uno dei protagonisti. E avevo finito di doppiare e poi il direttore dice: no Pino, devi rimanere e rifare le stesse battute ma con le scene hard. Ho detto: ma come? Spartacus c'è la doppia versione, scene normali e la scena hard, dove i gladiatori a uno si salutavano. Beh, il gladiatore è famoso. E poi si davano un bacio in bocca. La cosa mi ha un po' disturbato, ma per carità, rispetto, ma due gladiatori non me l'aspettavo. Vabbè, non ce li vedevo, due maschioni. Va bene, dice anche Walter che alla radio, devo dire, hai sempre una bella voce, caro Joslen. Grazie. Bello, no, arrivano tantissimi. Lo metto messaggi. Con l'accento senza. Dico okay. Grazie o grazie? Hai messo l'accento prima? Non me ne grazie. Ma è troppo. E grazie. Grazie. La seconda. Teniamo buona la seconda. Ok. Tu hai riscosso un grandissimo successo tanti anni fa, proprio un programma musicale in onda su Tele Monte Carlo, dal 1974 all'80 addirittura. Esatto. Però lo dici tu il titolo. Un peu d'amour, d'amitié e beaucoup de musique. Ecco, ti ringrazio. Un Prego. Po' d'amore, d'amicizia e tanta musica. Tanta musica. Programma musicale di cui fosti proprio al tempo stesso regista, come sempre, produttore e VJ. Sei stato uno dei mixer. Primi. E facevo il mixer video. È il primo proprio talk show della storia, grande intuizione. Sì, ma come il milionario è stato il primo reality. Sì, ma certo, hai fatto veramente tutto per primo. Boff. Sì, boff. È così. Boff è molto francese. È molto francese questo. Lo sbuffo è francese. Però è vero, tu hai avuto sempre delle grandissime intuizioni. Adesso ho avuto soprattutto dei grandi amici. Ho vissuto dei momenti professionali circondato di affetti, e questa per me era la cosa più importante. Vedi, divertirmi. Infatti qui... Allora, Giuseppe, mi ricordo quando la serie Frizzanti, le sere Frizzanti piene di vitalità e speranze con i miei giovani genitori ti aspettavano su Tele Monte Carlo con Un Pè d'Amor, d'Amitié, eccetera. Eri tu, c'era anche Wanagana lì? C'era Wanagana all'inizio che mi traduceva. Una ragazza di cui non ricordo il nome. Liliane dell'Acqua, che purtroppo è scomparsa. E poi dopo quella che è diventata la mia seconda moglie, Sofì, con la quale ho avuto una figlia. Seconda moglie? Quante mogli hai avuto? Giuseppe, dillo piano. Questa è la risposta, mi sta bene questa, basta, non dire altro. Ma non conta niente. Ma vedi che sanno tutto, vi ricordo un'altra persona, eravate seduti ad una regia audio-video e leggevate la corrispondenza, mandavate i brani, sì. Le donne erano tutte curiose di sapere quale colore degli occhi tu avessi, beh blu, ce l'ha blu. Trasmettevate, perché allora trasmettevate in bianco e nero, tipo Radio 24 che trasmette in monogrammofonico. Ma guarda, è vero, questa radio c'è questa cosa, è vero Alessandro, che siamo sempre mono noi. Vabbè, insomma, il mono c'ha il suo fascino, anche l'analogico, il fruscio. Sì, tanto, ma che ci importa di essere in stereo. Esatto. Penso un po', se manca un canale, senti le persone a metà, almeno mono... Sei sicuro? E sentite adesso me, Giuseppe e Paolo sullo stesso canale, insomma, esatto, sulla stessa cassa. Qual è il problema? Nessun problema. Allora. Come si intitolava quella trasmissione, Giuseppe, in cui la persona veniva a portare, questo lo dico io, portato in una città diversa dalla sua e doveva riuscire a spendere un budget, il milionario. Bravo. Bellissimo, bravo, un preserale pazzesco. Dove... Ricordalo un attimo, l'idea era magnifica. Questa tu, praticamente, prendevate una persona, la portavate in una città non la sua, cioè uno, esatto, di Roma, portata che a Milano. Che era la difficoltà più grande, di portarlo dalla sua città. Infatti siamo stati arrestati più volte. Perché come, era, arrestati? Come arrestati? E perché era bendato durante il pomeriggio. Ah, per cui avevano preso per dei rapitori. Esatto. E oppure, allora lo facevamo sdraiare nella posizione del passeggero della macchina. Ma non è bello perché, questo. Perché di solito, per esempio, dovevamo fare la registrazione, facciamo a Catania. Non è che lo facevamo arrivare a Catania, altrimenti questo furbo si metteva d'accordo con la gente di Catania. Lo facevamo arrivare a Reggio Calabria. Certo. E dunque doveva passare. E che doveva fare? Perché qualcuno magari non l'ha, ma molti hanno visto che allora doveva spendere 10 milioni di lire alle 9:30 di sera più in diretta. Meno, in diretta era registrata, sì. Alle 9:30 di sera, e aveva 30 minuti per farlo. Doveva far arrivare o la merce o una ricevuta nella suite dell'albergo dove eravamo, che era sempre un grande palazzo. Certo, perché poi è ovvio che è registrato, perché la sera in diretta qualcuno stava vedendo la televisione e dice, esatto, andiamo perché vinciamo i soldi. Bravo. E invece l'orario era sempre quello, ovviamente, però doveva spendere e doveva dare prova. Sembrava un pazzo uno che ordinava alle 9:30 i negozi chiusi. Sì. Perché uno che può comprare una macchina, puoi comprare. Ma hanno comprato di tutto, anche delle macchine, hanno comprato anche degli altri. Io credo che sia un programma che potrebbe andare in onda anche domani ancora. No, perché la gente ha mangiato la foglia, conosce adesso oggi come oggi si potrebbe rifare. Dai. Ma le devi registrare tutti prima, perché altrimenti la gente mangia la foglia, capito? E quello sicuramente, però è un programma bellissimo. Che anni erano questi qua? Era Rai 1? Rai 2. Rai 2. Ha creato la seconda serata, tra l'altro. Sì. E la prima seconda serata che aveva 53% di share. Beh, non è male, eh? Sì. Il Festival di Sanremo, sì, sì, ma veramente adesso se fai il 13-14 in grazie al cielo, insomma. E poi c'era un direttore che si chiamava Locatelli su Rai 2, che ha trovato l'idea geniale e intelligente, soprattutto per i silenzi che c'erano nella trasmissione. Io non volevo saltare sul concorrente e riempire le pause. No, lui doveva inventare le sue bugie, le sue cose, lasciarlo gongolare nel suo brodo. Esatto, proprio. E il silenzio praticamente era veramente la cosa che creava questo suspense. E certo, i silenzi tante volte per radio no. Radio, no, però televisivamente, se sono raccontati poi bene con gli stacchi. Ma sì, ma ne fatti tanti di questi giochi pazzeschi, anche Sherlock Holmes. Sì, praticamente lo stesso sistema, l'unica differenza che si svolgeva in studio e ne registravo 6 al giorno. Solo? Sì. Beh, noi facciamo 3 reazioni a catena di giorno, sì, insomma. Beh, vabbè, di. Lasciamo stare. Ma non è detto, sai, tutto torna nella vita, visto mai. E senti un po', anche Disco Ring, sei stato conduttore di Disco Ring, sì, questo lo scopro adesso, non me lo ricordavo. Per entrare in Rai, diciamo. Alessia, devo dire che ha fatto una tacca della tua vita, sì, una risonanza magnetica qui, che insieme a Mauro Meconi, i nostri ospiti, loro li vivisezionano e tante volte. Ma sono degli amici, sai, quanto ci si vuol bene. Ma vai, pensi, qui c'è poco, cioè, da volerti bene, qui c'è da amarti per quello che hai fatto. Sì, e poi paroliamo. Paroliamo, va bene, è un vecchio format francese ripreso con Lea Pericoli su Telemonte Lea Caro Pericoli, e poi sì, è stato rivenduto in Rai e registrato a Napoli, giustamente. Io veramente perdo un blocco per ricordare, sì, tutti i programmi che hai fatto. Faccio prima a dirteli io? No, guarda, sono tutti scritti perché sono pazzeschi, cioè Caccia al tesoro, Il milionario, Il sicario. Qual era Il sicario? Il sicario era fatto giustamente con un doppiatore che amo molto, che è tuttora un amico, Gino La Monica. Gino La Monica, Richard Gere nostrano, no? Paolo? L'elegante Gino La Monica. Gino. E Gino praticamente aveva intorno a un tavolo 5 concorrenti, e tutti questi 5 concorrenti cercavano di avere il milione che era sul tavolo, e diceva che loro avevano bisogno di questo milione, e raccontavano perché loro dovevano avere questo milione. Non potevano parlare né di malattia né di cose, certo, che fanno non pietismo, e alla fine votavano i 5 per portarsi a casa sto milione, chi secondo loro aveva più diritto a questo milione. E dentro c'era un sicario. Un sicario vuol dire che era pagato dalla dalla produzione per cercare di prenderselo lui. E lui era già pagato, ne aveva preso 200, credo, una cosa così, 200.000. Mm-hmm. Ma era pagato dalla produzione, non si porterà mai a casa il milione. Doveva cercare di portare, sì, no, però doveva cercare di portarlo via, accaparrarselo lui. E in questo caso era un telespettatore che prendeva il milione. Ma pensa, veniva sorteggiato. Ecco. Conto su di te pure. Conto su di te, doveva contare i biglietti. Con tutti i disturbi, le galline, le cose. Non me lo ricordo. Sì, c'era uno che doveva contare i soldi di una macchina sputasoldi che avevo inventato e la moglie doveva rispondere a delle domande. Quanto la moglie sbagliava, lui arrivava un disturbo, che potevano essere delle galline in mezzo, dei ventilatori, il tavolo che si muove, un clown, una fogliarellista. Sì, so. Sì, vermi, serpenti, scimpanzé. Le galline erano fantastiche. E nel caso che rispondeva bene alla domanda, che era la Foliero, tra l'altro, che faceva Emanuela, le macchine si fermavano e lui aveva un po' di tempo per contare, contare i soldi, e poi si ripartiva. Okay. Quando abbiamo fatto questo programma, c'era il direttore di rete, sempre Lucatelli, che mi aveva chiesto se potevo togliere le galline. Ho detto: ma perché, Luigi? Mi scusa, le galline piace a tutti, i bambini. No, no, perché c'è Arbore che poi arriva dopo di voi e che c'ha le cocodè. Per cui c'era questa similitudine. E c'era il Ferraro, tra l'altro. Esatto, lui sta indicando Claudio Ferraro, che è il mio grande amico, il nostro grande amico, coreografo storico di Mamma Rai, non solo il coreografo storico di Giuseppe. Infatti ci sarei arrivato a Claudio Ferraro quando parlavamo del grande gioco del Loga nel prossimo blocco, perché insomma... avrei una puntata che vuoi che tutti vedesse, la puntata della premiata ditta, che era la puntata numero 15 del gioco dell'Oca del 1993 con il bravo Gigi Savani. Era una puntata che me la ricordo ancora tutt'oggi. Ma io tuttora mi ricordo le puntate del gioco dell'Oca, perché tu mi hai fatto fare delle prove che, se ci ripensa adesso, ti ammazzerei, perché passe di là dei coltelli, da un lanciatore di coltelli ubriaco. Cioè, mi piaceva, insomma, trincare abbastanza con la pedana che non era ferma e ti tirava i coltelli, girava. Io non so per quale motivo ho accettato qualsiasi cosa. I coltelli erano veri. Ma io ho accettato tutto da Giuseppe, ho fatto qualsiasi programma con lui, anche Vita da Cani. Sì. Siamo stati 4 mesi con i cani, a doppiare i cani, e non solo a fare addestramento. Mi sono messo un cane poliziotto e mi mettevo sotto il collo una palla e lui mi azzannava la gola. Mi sono fatto fare delle cose che, se ci ripenso, dico: ma per quale motivo? Non è una follia. Eri profumatamente pagato. Ma no, era un pagato normale, perché mi fido di lui. No, ma non c'era questa cosa. Ci divertivamo veramente. Sì, ma ti dice: te vado e fatta azzannata sto cane poliziotto, c'è anche chi lo controlla. Ho capito, ma quello comunque mi azzannava. Capito? E lo facevo io. Poi mi rifai il cane. Il cane che è arrivato secondo, no, che parla Aldo Fabrizi. Quello che parla tutto insieme, andasse niente. Che era un afgano. L'evriero afgano, che era tutto quanto così. Noi doppiavamo questi, dovevano fare tutto l'agility dog. Lui faceva: ah, mi aspetti, no, una cosa. La gente rideva. È arrivato secondo un cane che non faceva niente, che era un mastino napoletano. Io facevo: sembra dai una bella polpetta, io mi faccio tutto l'agility dog. Gli davano la polpetta e lui faceva: ma non mi va, sto fermo, perché non mi va. La gente rideva, dice: ammazza, sto cane è simpatico. No, ero io simpatico, il cane non faceva niente davvero. Però, e Carmella sorella, che alla fine del programma fa: ma il cane parlava del suo cane lupo, sì. E poi quando ci siamo salutati fa: ma perché non parla più? Certo, perché era finto questo. Qui che cosa? Giuseppe, ciao, io ero tra il pubblico nello studio Rai di Disco Ring e una volta mi hai tanto divertito, dobbiamo andare in pubblicità, sì, quando hai detto a un tipo che faceva casino mentre si registrava: attenzione, ti sfasci la testa come melon se non tasci. È vero? Non mi ricordo. Però il modo di dirlo è tuo. C'era Tiberio Timperi che faceva parte anche lui del pubblico di Disco Ring. Sì? Sì. Va bene. Paolo, tu scappi. Io... Grazie Paolo, dopo volevo rimanere per questa osmosi radiofonica. È stato un grande onore conoscere Joss Lane. L'onore è tutto mio. Vado via con un po' di rammarico, perché nessuno ha chiesto del colore dei miei occhi. È vero. Aspettando che Hollywood ti dia una risposta. Ciao Paolo, rimani Joss. A tra pochissimo con gli amici di Radio 24. Voglio Voice Anatomy. Eccoci di ritorno con Jocelyn al mio fianco, a sinistra il coreografo, anche se non è Body Anatomy, ma è Voice Anatomy. Non parla Claudio Ferraro? No, non parla. Però bisogna dire, Claudio Ferraro ha fatto tante coreografie, Arbor, eccetera, però quella storica è Colpo Grosso. Cin cin, ragazzi, oddio. Siamo cin cin. Quando lo presento lui si arrabbia, dice: ma perché dici questo? Perché tutti lo conoscono. Sì, io sono passato l'altro ieri, ma è vero, facevo una ricerca su Google, non so di più che, e mi arriva: ragazzi, cin cin. Io ho fatto le porta fortuna. Devi portare vicino al microfono. Se parlare. Vuoi parlare, parli. E su, avanti. Dai. È su, allora. Volevo soltanto dire che io ho fatto l'edizione con le ragazze porta fortuna. A quelle che avevano la frutta sul seno. Che facevano po. Porta fortuna. Siamo in radio, eh? Sì, sì. No, perché così facevo la sigla. Basta, ha fatto pure più. I movimenti. Vabbè, ma ci hanno accompagnato, ci hanno fatto diventare miopi, astigmatici, insomma ci hanno aiutato in tante... Nella io c'ero, io c'ero. Lui vuol dire che noi guardavamo e lui c'era. Va bene, va bene. Allora, stavamo raccontando, facendo questo percorso che è lunghissimo, tanto devi tornare. Caccia all'uomo. Oh yes, questo era bello. Questo era bello. Era... Dove andava? Su quale rete andava? Andava su Italia 1, che è l'unica esperienza in Italia 1. E poi ho fatto Cos'è Cos'è, Canale 5, cos'è? Che era la prima diretta di Canale 5, la prima vera diretta di Canale 5. Il Caccia all'Uomo era praticamente un concorrente, doveva premiare una persona che aveva fatto del bene nella sua vita. E questa persona che aveva fatto del bene non sapeva che doveva essere premiato, dunque doveva ricercare questa persona e dargli l'assegno. In questo per soldi tu sei fatto proprio per tu ma ti facevi pochi... guadagnare, no. La cosa bella, no no, ma la cosa bella, cioè, sei guizza, sono tutti quei soldi, c'è poco da fare, però se li guadagnavano, sì. Cioè non bastava di un nome, no, d'impacco, no, di no. Tre hai vinto 100.000 euro, cioè dovevi fare una cosa, sì. E la cosa tanto. È anche divertente perché... e poi fa funzionare il cervello, sì, cioè, e lì in questo caso se trovava la persona e dava l'assegno poteva guadagnare la stessa somma. Senti, come si intitola in francese la canzone di Michel Figan, un'estate fa? Una belle histoire, Alessandro. Bella, belle histoire con l'H, histoire. Sì, esatto. È vero? La ti belle ringrazio. Histoire. Ecco, me la cerchi un attimo perché poi devo fare una domanda al mio amico Jocelyn. Ui. Caccialò, cos'è l'hai detto? Ui. Chi è? Ui. Che no, perché i giovani adesso in Francia, al posto di dire oui, fanno ui. Aspirano questa... Sì, la fine. Allora sì. mi fa ridere. Ui. È qui, come qui che dicono qualche... Cioè. No, oppure in che senso? Anche, voilà. Oppure daje. Daje. Daje. A Roma questo. A Roma è daje. Scialla, vabbè, ci sta un sacco amo, di... Amo. Amo. Amo. A Roma questo è amo. Amo. Ma sì, c'hanno sempre delle contrazioni, delle forme idiomatiche particolari. Poi anche Domenica Inn. Eh sì. Domenica Inn l'hai fatto con Alba Parietti, c'era Cotugno. Alba Parietti e io. Dove sta Toto Cotugno? L'abbiamo sentito, in visto. Russia in questo non so, fa tante tournée, lavora tanto. È sempre conosciutissimo in tutto il mondo, come ricchi e poveri. Il mondo intero. Sì, sì. Grazie a questa compagnia discografica che si chiamava la Baby Record. Sì, la Baby Record. Che aveva fatto tutti questi grandi successi, l'italiano, la cosa di Albano e Romina, sì, Felicità, loro. Il ballo del Quaquà. C'erano tutte queste tutte le la parte, e poi insomma l'esaltazione, lasciatemi cantare con la chitarra, ma sono un italiano, un italiano vero, forte, dai, ci è sta forte, ci è sta forte. Ci sta, ditemi quando avete trovato la bella histoire, Michel Figan, Figan. Esatto, io la, perché non me sto zitto, la U si pronuncia U, perché sì. Le cu le cu. Sì, no, si può dire, siamo sdoganati da Cruciani qui. Ah, va bene. Per cui, le cu sarebbe il collo. Le cu. Si scrive C-O-U. Lo cu è il collo. Esatto. Le cu. Le cu è il sedere. C-U-L. Ah, attenzione per cui. È arrivato anche l'altro ospite, il carissimo Ninni Bruschetta. Andiamo da Tunisi alla si Sicilia. Mangia. Si mangia, ma dai, Jocelyn, Ninni, vieni prima poi dentro. Ma io mi chiamo a tab, dunque va bene. Si mangia a tab la bruschetta, ma tu dimmi questo disgraziato. Senti, ma cos'è? Mi hai detto già, è stata la prima diretta di Canale 5, però... Sì. Il grandissimo successo venduto in 42 paesi del mondo è Il Grande Gioco di Droga, che anche quello dovrebbe rivedere la luce. Eh sì, sarebbe beh, in questo momento siamo in trattativa, vediamo se Dio vuole. È vero che costa. Ecco che entra Nini Bruschetta. Anche ciao, io. Scusa, si presenta. Ho messo una battuta, Nini. non l'ho sentita, ma ecco, lo sentite che la voce che fa campo di un uomo della Nord-Est. Ho fatto finta di non sentire il tuo nome, eh? Ho utilizzato il cognome quando ti ho annunciato e ho detto allora si mangia. Allora si mangia. Hai capito? Lui si chiama Tappe di cognome, per cui che vuol dire a tavola in francese. Hai capito? Questo apposta apparecchiamo, io insegno e tu insegni a mania. Senti un po', questo grande gioco dell'Oca è stato un successo veramente straordinario. Sì, veramente la grande, fortuna di fare qualche passeggiata all'interno, ma bello. Ma nuovo. Tu l'hai vissuto veramente? L'ho vissuto in tutto, o da casa tua a vederlo, o ospite, o sì, soggetto delle puntate. Tu ma... ti ricordi, Nini, il grande gioco dell'Oca? No, di no. No, e cioè, fai bene. Era un modo, diciamo, per metafaro sulla battuta di Bruschetta. Esatto. Però in realtà non me lo ricordo. Vedete che succede a fare un'osmosi di ospiti? Succede anche questo, no? Ma è però bello. Bisogna anche capire che chi fa la televisione non la guarda. Anche quello è vero. Meno normale. Berlusconi, no? La prima volta che l'ho visto per vendergli La caccia al tesoro, che la Rai non sapeva se la rifaceva o meno, mi ha detto una frase, così perché io pensavo che lui l'aveva visto, se mi chiama per comprare. No, colpo grosso aveva visto. No, cioè, sicuramente. E mi fa: io faccio la cacca, ma non la guardo. Ah, carino. Carino, no? Cioè, non me la guardo. Ha aggiunto per sdoganarsi: sì, faccio... io sono come gli americani, faccio la cacca, ma non la guardo. Esatto. Sentiamo invece quella domanda che volevo farti, perché c'è una canzone che io amo, francese, ne amo tantissime. Ma la Belle Histoire, ecco. Vai, vai, Michel Fugain. Fugain. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Che bella roba, lasciala sotto. Perché poi la gente la conosce, ma non sai che quella originale è questa. È poi questa. Franco Califano, la storia di noi due, eccetera. Ma questa, ma è lì quella originale. Bisogna dire una cosa: c'era un altro autore con Califano per le parole, era Oscar Avogadro. Ah, beh, sì. E, che era un giovane autore all'epoca della CGD. E perché non fai un'applicazione? L'applicazione Jocelyn, che uno clicca quando non sa le cose, clicca e ti dice tutto. Scatta il meccanismo, l'app Jocelyn. No. Io ho messo Michel Fugain perché. Sai, in italiano è rischiosissimo. Sì, questo nome cadi nel. Infatti, lui ha detto una cosa completamente diversa da quella che hai detto tu. È vero. Non so se ti sei reso conto. Che non c'era neanche una consonante uguale. Non ho fatto neanche un bollo. Me lo ripeti? Fugain. Fugain. Che no, è pericoloso. No, no, no. Senza la finale che hai fatto. Mi Fugain. Viene in mente. Fugain. Fugain. No, io per me questa è una cosa che succede ogni giorno a casa ed è un inferno, perché io vivo con una moglie e due figli che sono, diciamo, perfettamente bilingue, e mia moglie invece è anche anglofono, francofono oltre che anglofono. Quindi io non posso dire alcuna parola che non sia italiana, perché per il resto vengo beffeggiato e soprattutto ogni tanto mi guardano e mi dicono: ma che volevi dire? Cioè, no, non ho capito. Che brutta cosa, non ho capito. Stai qui con me la domenica, sì, esci da casa. Vengo ogni domenica, promesso. Mi preso una tenerezza così terribile. Te lo chiedo dopo, perché dopo sarà anche il tuo momento, ma mi piaceva che già mi stessi arrivato. Perché di dove è tua moglie? È francese? È no, mia moglie è di madre inglese. Mamma mia. E di padre italiano, cresciuta, diciamo, è stata fino a 10 anni in Africa. Bene. Quindi parla italiano, inglese e francese allo stesso modo. Mia suocera addirittura è proprio che è inglese, nata a Tunisi da madre maltese e padre inglese. Mi sembra fatta apposta sta puntata, lui è nato a Tunisi, che poi è vissuto in Francia, per cui fantastico. Quindi loro parlano... Sono berberi anche loro di origine, allora. Sì, immagino. C'ha gli occhi azzurri, intelligenti, come si dice. No, io sono stato a un pranzo a Worthing in Inghilterra, anzi a Brighton, dal cugino di mia moglie con il nonno, e non ho mai sentito parlare tante lingue alla stessa tavola contemporaneamente. Tu che... io capivo solo l'italiano, cioè, ovviamente. Certo. Tu poi la curiosità, dove vi siete incontrati, Nini? A Sorrento. Ecco perché il Festival del Cinema. Io ero in giuria al Festival di Sorrento, ero ragazzino. E lei era nell'organizzazione ed era interprete della giuria. E per cui lì è nato. Perché il presidente della giuria era Jean-Paul Manganaro, che era francese. E Manganaro? Sì. Manganaro, ho detto Manganaro. No, perché no, come tu moglie. No, scusa. È tunisino e francese come tu moglie. No, vabbè. No, poi Jean-Paul Manganaro, voglio dire, era diavola. No, è diavola, non voglio adesso. Poi si chiama Jean-Paul Manganaro, però. Va bene, allora. Si chiamerebbe Giampaolo Manganaro, esatto, in italiano. Esatto. No, ma in francese Jean-Paul Manganaro. Nini, scusami. Siamo, io pensavo di fate passare la domenica. Pur essendo di più. Esatto, capito? Sono pure il conduttore, oltretutto. Va bene, sono le 15:57. Esatto. Siamo in diretta. Siamo in lo diretta. Dico per Tiberio Tiberi che mi ha mandato un messaggio. Ma sei in diretta? Tiberio Tiberio, l'uomo agli occhi azzurri, ma non è berbero. Va bene. A tra poco. È la pausa lunga del GR questa, per cui va bene. Va bene. A tra pochissimo. A tra rimanete qui e rimarrà ancora Jocelyn e l'amico Nini Bruschetta. A tra poco. Sanatomi. Eccoci di ritorno dopo questa pausa dove allegramente stavamo raccontandoci un po' di aneddoti delle nostre vite. Caro Jocelyn, si diceva che la talentuosa Mandalir fosse di origine ma non era forse solo una trovata pubblicitaria? Ma che c'entra Jocelyn con Mandalir? Ma che c'entro? Niente, ho fatto una canzone che si chiama La Tonchinese. Pure quella hai sì, fatto. Sì, perché le parole erano scritte da Maggioglio, ma alla CIA risulta Pupo. Uguale. E perché? Pupo e Maggioglio. Dimmi che c'entra. No, l'associazione è perfetta. Perché? Sì, perché chi non conosce le lingue, qualsiasi parola è buona. Allora, ah, certo. Un attore straordinario siciliano che si chiama Dario Tindaro Veca, con cui ho fatto una cosa un paio di anni fa, a un certo punto c'era l'aiuto regista, si chiamava Jonathan, perché era veramente inglese. E lui lo chiamava Javelin, che è un modo di offendere il fatto che tu sei straniero, che non è possibile che ti chiami Jonathan, che cavolo di nome è, esatto. No, quello è il concetto. Quindi Javelin, e quindi l'associazione con la Mandalir si usa anche, guarda, sei norvegese, no, svedese, vabbè, uguale, no. Ecco, uguale, esatto. Oppure adesso molti Pakistan, Bangladesh, no, non è anche la stessa, sei indiano, i norvegesi, no? Trattino gli svedesi come se sì, fossero malazio, oppure un po' peggio. No, è così, c'è questa cosa di normalizzare stene, come dice, sei italiano, sei francese, no, italiano, vabbè, no, uguale. Non è uguale. No, però, parli italiano, tu capisci lo spagnolo, no? Esatto, uguale. Basta mettere una S. Uguale. Tu quante lingue parli, Giuseppe? 7. Che antipatico, antipatico dall'inizio della trasmissione. C'ho gli occhi azzurri, sono berbero, i berberi sono così. Io sto zitto, non so se hai notato. Sto sì, zitto. Niente. Mi infastidisce e basta. E basta, dà fastidio questa cosa. Ma adesso me ne vado. No, fra 10 minuti cacciamo via. 7 lingue è offensivo. No, è offensivo, sì. Beh, vabbè, perché la cosa che ti dà più fastidio è che non si confondono. Esatto. No, non è il fatto che le sanno, è che non si confondono, cioè che parlano arabo e parlano veramente lui arabo. Parla non pure ci arabo, mettono in mezzo. Cioè, parla arabo tranquillamente, capito? Tu sei parli arabo, israeliano, arabo è l'ebraico l'ho un po' perso. L'ebraico, eh sì, cioè, peccato. L'ha un po' perso l'ebraico. Ma guarda, per cui inglese, era francese, pesante, tranquillamente. Spagnolo, portoghese. Portoghese. Fa portoghese, perché quello è il fa la portoghese. Fingi subito, esatto, di parlare portoghese. Sembra più transessuale adesso. Un attimo, Nini, con quel vocione che c'è. Fa portoghese. Esatto. A proposito, perché i doppiatori, quanto c'è un film e c'è un francese, prendono degli italiani che fanno l'imitazione dei francesi, bruttissimo. Esatto, quello è brutto. È l'unica volta, infatti, che ho perso i provini, quando ho dovuto fare in francese il cattivo di James Bond, l'ha vinto un francese che parla italiano, infatti. Si tende sempre adesso a chiamare un francese che parla italiano, perché è difficilissimo, se no diventa la Pantera Rosa, diventa ci deve essere una esatto. No, diventa bene. Giocoso, però no. Tu quante lingue parli, Nini? Io parlo molto bene l'italiano. Benissimo, lo devo dire. Veramente, veramente un accento. Cultore della lingua italiana, perché fa di origine sei messinese. E magnificamente il siciliano. Il siciliano magnificamente. Devo dire tutte e due sono perfettamente bilingue, posso svegliarmi nell'una o nell'altra. Tu sogni in siciliano o sogni in... No, no. Quando pensi in siciliano e poi parli. No. Questa è una bella domanda. Esatto. Questa cosa del pensiero è una bella domanda, nel senso che la lingua madre, ora parte lo scherzo. No, quella parte scherzo, la lingua madre è una meraviglia. È naturalmente il siciliano, anche se io sono cresciuto in una famiglia borghese dove si parlava pochissimo dialetto e dove tra l'altro i miei nonni che vivevano in casa con noi erano calabresi e parlavano italiano pulitissimo perché non avevano praticamente quasi mai vissuto in Calabria, quindi non ho avuto questa influenza. Però poi, vivendo per fortuna la strada, insomma la vita normale, il dialetto nel mio lavoro, per esempio quando io faccio il regista a teatro, lo utilizzo sia per far lavorare gli attori, perché la sonorità dei dialetti, per esempio, se dico una cosa pazzesca, se fai Shakespeare, cioè se lavori sul verso, che è una cosa difficile, sì, la prima cosa che ti aiuta quando un attore c'ha, diciamo, deve carburare, è farlo recitare nel suo dialetto, con il suo accento, perché quello lo mette, diciamo, dentro quello che dicevi tu, mette insieme il pensiero e l'azione. Certo. Perché il pensiero è necessariamente dialettale, perché l'onomatopeismo dei dialetti è irraggiungibile da qualsiasi... Ma dilla sta parola, Giuseppe. Dilla un po'. Andiamo avanti. Grazie. Nini, scusami. Grazie. Una zero, dai. O almeno uno pari, santa miseria. Parlo sette lingue. No, in effetti, Dio, con il dialetto rendi delle cose. Io, per esempio, anche quando parlo in pubblico, molto spesso faccio dei passaggi in dialetto. Perché, non perché sono intraducibili, non è vero, ma perché esprimono una cosa che in italiano non puoi esprimere. È vero, il dialetto quando è usato in quella maniera è perfetto, lo capiscono tutti, perché è il suono. Io posso chiedere un esempio? Come a fare, per dire, no? Cioè quando tu dici come a fare, è molto diverso di che dobbiamo fare. Cioè come a fare sottintende tutta una serie di possibilità, ma soprattutto esprime uno stato. Cioè in quel momento sei nello stato di camaffare, che non è che non è, no? Che dobbiamo fare, è difficile da, no, non è traducibile. No, ma grazie, questo è bello di avere anche l'esempio di, perché hai fatto, e questo è Voice Anatomy, poi ci vengono dei tecnici, dei vocologi in questa trasmissione, oltre attori, doppiatori, eccetera. Poi noi sai che comunque siamo eredi, camaffare lo sai dire in quella maniera, camaffare, no, no, è camaffare, camaffare, no, fa francese. E beh, lì è come quelle cose perverse, sì, del francese, dell'inglese, in cui si sentono delle consonanti o delle lettere che tu dici, ma perché si deve sentire proprio quella o, esatto, quella non si deve sentire? Perché cambia, perché come ho detto prima, il collo e il culo, è un attimo, no, le cu e le cu. Hai capito? E cambia tutto, dice che bel collo che c'hai, invece hai detto al francese per cui non è carino, cambierebbe veramente tanto. Molto diverso. Bello, devi sapere, caro Giuseppe, sì, c'è una storia pazzesca. Tu torni, vero Giuseppe? Perché dobbiamo parlare di tante quando cose. Vuoi. Perché quando prima vuoi. Abbiamo messo Michel, la domenica, Michel, abbiamo messo Figuin, non lo ridico. Michel Figuin. Perché tu ci hai collaborato con, sì, ho cantante, creato il Big Bazaar con lui. Gli ho venduto una macchina, una Porsche. Ma come gli hai venduto una macchina? Ho detto, se ci hai collaborato, non sei fatto una tratta, no, di macchine. No, vendevo delle macchine. Ma come vendevi macchine? Io pensavo ci avessi lavorato. Sì, anche. Ma che hai fatto l'autore, il regista, e gli hai venduto una macchina a Michel Figan, come si chiama questo? Torno dal servizio militare, torno al Teatro du Châtelet dopo 28 giorni. Il teatro più grande del mondo. E al teatro mi fa, no, ti aspettiamo fra 18 mesi. Vabbè, allora nel frattempo ho venduto delle macchine sportive e lì mi arriva Fugain e gli vendo una Porsche. Porsche, e lui mi fa, ma che fai tu qua? Mi faccio, niente, vendo le macchine, perché prima ero alta, ma no, ma vieni con me, facciamo una compagnia così dove tutti siamo pagati il stesso prezzo, bla bla bla bla bla, e abbiamo creato il Big Bazaar insieme, ho mollato le macchine e sono partito. Gli ha venduto una sola, non era una sola, no, la macchina, no, no, era buona, una bellissima macchina che usavo io tra l'altro in torneo. Ma capito, cioè, Nini, no, tu hai cominciato, esempio, anche tu vendevi macchine. È raccontata in francese questa cosa, no? Perché lui dice, hanno arrivato, lo si è preso la macchina, poi ha detto, no, ma dai, vieni, facciamo una compagnia e dividiamo tutti i soldi. Cioè, non è, cioè, possibile. No, non è italiano, così, non è una cosa italiana. No, è un modo francese, sì, di dire un fatto complicatissimo che sarà, esatto, successo, che lui, sì, doveva, ma vendere la macchina. Lo concentro, certo, è naturale, è lingua, giorni, anche questo. Che è una sintesi di una lingua. Se avesse detto in un dialetto italiano qualsiasi, sarebbe stato chissà che cosa. No, lasciamo stare, no? Se offende qualcuno. Caro Joss, sì, dica. Se vuoi rimani, io devo stare anche un po' con Ninni, ma tu devi soprattutto tornare. Con Ninni. E di all'amico Tiberio d'Imperi, sì, che può venire ospite, ah, nella, sì, trasmissione. Tiberio, come ci senti? E che siamo in diretta, sì, e sono le 16:14:36 secondi. Pino ti invita a venire, certo, alla trasmissione. Anche, certo, a portare le pastarelle, perché, sì, pare che lui porti le pastarelle. Sì, lui è molto elegante, famoso presentatore dell'Antica, concorrenza. Ti do il numero di Pino, che il 3 sì, ma puoi darlo tranquillamente, è sempre quello da 27 anni, qualcuno ancora mi chiama e fa Pino. Sì, io non sto ricercato dalla polizia, dillo tranquillamente. Allora, bene, andiamo in pubblicità e torniamo immediatamente con Nini Bruschetta e Joss, se rimani qui al nostro un fianco pochino, sì. Dai, a tra poco. Voice Anatomy. Come promesso, 16:15 e 53 secondi. Jocelyn è sempre qui al mio fianco, ma c'è Nini Bruschetta che diventa protagonista di questo momento, assolutamente, dopo che c'è stato il berbero con sette lingue, ma sta ancora qui e ci ascolta. Io partirei con... ci vedi, assolutamente. Partirei con un contributo di Nini Bruschetta tratto da quel capolavoro che è Boris, questa serie televisiva che ha lasciato un segno nella storia. Come all'inizio abbiamo parlato di romanzo criminale insieme al mio autore Mauro Meconi, ma insieme a Paolo Buglioni, che faceva parte del cast, oltre ad essere un grandissimo attore doppiatore. Noi sentiamo un pezzo di Duccio e René, grande Pasquale Pannofino. Francesco, e poi parliamo ovviamente con Nini. Prego. Questo salone da cui fuoriesce la signora dei salotti, tu come lo vuoi illuminato? Aperto o chiuso? Ecco, bravo, io non voglio mai più sentire questi aggettivi, mai più. Chiaro, ci sarà una via di mezzo, porca puttana, Duccio! Ma tu è una provocazione, René. Ma non priva di fondamento. Abbi pazienza, io devo fare in due giorni quello che avrei dovuto fare in una settimana. Ti ho capito a te. Tu dici, facciamo il cinema. Allora io apro quasi tutto. Sta in campana, Duccio. Perché io quello stronzo di Baranes l'ho cacciato perché mi stava qua. Ma la sua fotografia mi piaceva. E io voglio quell'impostazione, voglio quel concetto, hai capito? E non mi fa fare la fotografia da sto fichetto e merda, perché non mi piace, la riconosco, sai. Io voglio te, Duccio, voglio te di 20 anni fa, hai capito? Ti faccio una fotografia di me, che ti faccio venire il magone. Il magone. Dio mio, Duccio Padaneghe era il direttore della fotografia di questo improbabile set. Ho visto tutta la serie. Bellissima, devo dire. Qui cominciamo quasi dalla fine, però non si può. Sì, questo è il film. Questo è tratto dal film, però. Questo è il film, dove, Boris. Siccome la cosa più straordinaria di Boris è la scrittura. Sì. Cito Matteo Torre, Luca Vendrusco, assolutamente bravi, però devo dire che l'interpretazione gli avete dato. Insomma, sì, sì, poi parte da una scrittura, come un bel soggetto televisivo, un quiz, eccetera. Certo. C'è la struttura, poi c'è la gente poi che noi lo realizza. Siamo i personaggi, nel senso che il parto, no, dell'autore, la mamma del personaggio è l'autore, ma poi il personaggio siamo noi, è inequivocabile quello, cioè, e quello è il bello del nostro lavoro. Sì, ma gli avete dato una verità pazzesca, dai. Sì, però c'è una base, sì, straordinaria, base solida. Stavo dicendo, la finezza di questo dialogo è quando Pannofino dice: non mi fare la fotografia da questo fighetto, che è il grande Carlo De Ruggeri, che è lo stagista schiavo di Boris. E questo riferimento è un riferimento a tutta la struttura narrativa della serie, addirittura, che non è minimamente toccata nel film. In questo c'è una finezza di scrittura che, scusate il paragone audace, no? È shakespeariana, no? Era lui che ogni tanto citava delle cose che appartenevano ad altre sue tragedie molto più antiche. Sì, ma guarda, secondo me sono paragoni degni, nel senso, non è una cosa descritta bene, cioè, la comicità è soltanto una sintesi brutta della drammaticità, non è così. Assolutamente, la comicità è complicata, quella vera. Più complicata di quella drammatica. Lo sketch, drammaturgicamente parlando, è difficilissimo da scrivere, insomma. Assolutamente. E rispetto a me, quando mi fanno i paragoni, ma questo non è il Don Carlos di Schiller, no, non lo è Boris, è un'altra cosa. Cioè, proprio no, quando decidono la premiata ditta, avete fatto uno spettacolo, ma non c'è proprio la satira politica, non ci vuole essere, non c'era, nessuno la cercava. Nini Bruschetta è anche sì, attore sicuramente, ma tu sei uno scrittore. Io uno lo conosco bene, l'altro no, però il manuale di sopravvivenza dell'attore non protagonista è un libro, sono, diciamo, romanzi. L'altro, allora, la cosa più bella di questa esperienza è stata quando io l'ho portato, insomma, sono grande appassionato, mi piace molto scrivere, la cosa che mi piace di più fare in assoluto. Quando l'ho portato a Fazia, Elido Fazia, che è questo editore che, di cui qualche librario dice che è il nuovo Einaudi, io sono ben d'accordo con lui, perché è veramente un editore importante. Sa rischiare, insomma. Sì, è veramente bravo. E la cosa che mi ha gratificato è che lui, che è una persona insomma, che capisce anche criticamente la scrittura, mi ha detto, cioè, ma se vuoi lo possiamo pubblicare anche come romanzo. E poi abbiamo convenuto insieme che non era il caso per un fatto di rischio che ti metti su un mercato sì. dove ti possono stritolare. Non è un romanzo. Esatto, no. Perché il romanzo in realtà molti non lo sanno, il romanzo è tutto. Certo. Il romanzo è stato, insomma, il termine è stato inventato come varietà per giudicare, per diciamo, per far passare qualsiasi cosa che non fosse è strutturata, è un romanzo. Quindi va benissimo. Però poi appunto abbiamo fatto questa scelta. E niente, è un racconto, sicuramente un racconto di un pezzo di vita. Diciamo quel pezzo di vita. Non riesci a metterlo in scena? Lo vuoi mettere in scena? Si può diventare. Ma guarda, non lo so. Ci può essere pure un bel monologo. È andato molto bene. No, quello, no, io ho fatto un reading che mi hanno chiesto di fare a Bologna. È funzionato molto bene teatralmente, dura un'ora. E, insomma, magari lo farò anche in altri posti. Però chiaramente la cosa molto possibile sarebbe farci una serie TV, per esempio. Sì, perché uno spin-off di Boris. Sì, è uno spin-off di Boris, ma è anche molto diverso, certo. No? Da Boris, perché attraversa, diciamo, si concentra su questa situazione del non protagonista, che poi diciamo porta con sé l'assunto che lo siamo tutti. Io sono rimasto molto colpito quando ho visto La giovinezza di Sorrentino. Io conosco bene Paolo. Sì, infatti ne avrei parlato. Insomma, ci ho anche lavorato. Lo conosco, è più giovane di me, quindi l'ho visto, faceva l'assistente alla regia di un film che io producevo, pensa. Quanto Beh, tempo è passato? Se ricordassi al posto di Harvey Keitel la prossima volta chiamarmi Bruschetta. No, ma mi ha già chiamato. Mi ha già sì, chiamato. Lo so, c'è lavorato. Vabbè. Però, Beh, lì Harvey Keitel era perfetto, proprio perché... Sì, no, certo, non c'è l'età di Harvey Keitel. No, ma non solo per un fatto di età, perché quel film è un film scritto, pensato, realizzato da un campione. Io credo che Paolo sia un campione. Cioè uno di quelli che quando tu li vedi giocare, quando i nostri figli li vedi giocare a tennis... Vedi quello di 12 anni e dici questo qua è un campione, è un'altra cosa, è un altro livello. Quando ho visto quel film, a un certo punto lui fa dire ad Harvey Keitel, che è evidentemente lui, perché è il regista del racconto, di questo racconto di altissimo livello, dove sono tutti campioni, dove c'è Maradona, dove c'è questo grande direttore d'orchestra, eccetera. A un certo punto Harvey Keitel dice, alla fine della riunione con gli sceneggiatori, dice, perché alla fine poi siamo tutti comparse. Io mi sono commosso quando sentivo, perché se lo dice uno come Paolo, dico, beh, allora siamo perfettamente d'accordo, perché siamo tutti non protagonisti, siamo tutti, come dice anche il grande Battiato, miseri ruscelli senza fonte. Non, che bella non so, poesia. Nulla. E quindi poi quello che io racconto lì è, da quel punto di vista, anche guardare il bello e il brutto del nostro lavoro. Beh certo, il Vangelo secondo il non protagonista, insomma, è come se, se Giuda raccontava. No, ma è così, no? È un Vangelo apocrifo, ma magari visto da un altro punto di vista. C'è il Vangelo di Giuda. Sì, sì, sì, esiste anche. A parte la gloria di Giuseppe Berto, che è un bellissimo. Sì, bellissimo, è quello che, a cui mi riferivo racconto. Mentalmente, è quello, quando lui vede Gesù e dice, allora non sono io Gesù, porca miseria, allora... Vabbè, vedo che posso fare. Poi ha fatto un po' di macelli, però quella è la storia. Però lui, attenzione, è il traditore. Sì. Cioè quello che tramanda la storia. Sì. Perché tradisce. Tradire significa tramandare. Poi dici voi sanatomi. No, io sono imparo. Affascinato da Nino. Nino è affascinante. Me lo sto guardando, lo sto ascoltando, ma è infatti, un piacere. Mai sentito mai sta zitto per più di un minuto? mai sentito sta zitto per più di 30 secondi? Ma è bellissimo, è straordinario, ed è vero in più. Nini, io ho il piacere di respirarlo ogni tanto ed è di una disponibilità, come dovrebbe essere la normalità. Ma non è mai come lo sei tu, devi anche dire come che lo sei quando, tu sì, però, vabbè, io, esatto però... perché quando io e Pino ci siamo conosciuti lui era una star, anche se siamo quasi coetanei. Io ho 36 anni, non so tu, ma... esatto. Io sono 51, per cui non riesco a capire quello che stai dicendo. Lui era una star e io ero un bambino e lo, sono andato a cercarlo, ti ricordi sì, quando sì. lui venne a Messina a fare Giulio Cesare, ma non lo dite a Shakespeare. Pensa che poi il primo classico che ho fatto a Messina Scena è stato proprio Giulio Cesare, quello vero, quello vero. Io ho fatto quello con Ciuffoli, per cui... vabbè, ma era straordinario, era l'82, no, sì, era sì. Soprattutto fedele al testo, nel senso sì. Raccontava perfettamente poi quello che era il senso, no? Sì, sì, cioè, quello che la gente ridere, esatto, come poche cose. Ma infatti noi abbiamo avuto quella fortuna e siamo cresciuti all'ombra di quei grandi protagonisti che sono venuti poi a vederci, come Tata Giacobetti del Quartetto Ceta, che ci portò Carinè, che portò Bramieri, e ci elessero i loro nipotini preferiti e ci portarono come Allegra Brigata poi al Sistina a fare il GB Show. Ciuffoli coi capelli, insomma, eravamo piccoli prima della premiata ditta. E Messina fu la nostra prima data al teatro, sì, Romolo Valli, sì, già il nome per, sì, me è quello che mi ha detto voglio fare teatro, perché vidi Romolo Valli a 14 anni, che poi ovviamente è stato chiuso. Sì, beh, certo, il teatro deve chiudere, beh, già il teatro è come il delitto, non paga, come, certo, dice Ciuffoli, però, certo, santo Dio, certo, è l'unica parte dove i veramente un attore sono nudo. Quelli che vengono chiusi senza problemi, sono inagibili, perché se poi diciamo in Italia succede di tutto, anche l'orologio tutto, hanno chiuso da poco, esatto, qui a Roma, e mi dispiace, esatto, tanto esatto, tutto illegale, però quando c'è qualcosa di impreciso dentro un teatro viene subito che eliminato, tristezza. Ma c'è un motivo, eh? No, c'è un motivo, c'è perché, un motivo, ma perché il teatro intanto come dire è fuori dalla censura. Voi sapete che noi in Italia abbiamo questa legge folle medievale, no? Cioè noi abbiamo una commissione censura. Certo. Che è una follia, sì, cioè, ma che vuol dire? Ma che... L'inquisizione. Sì, poi in realtà capisci che in realtà è una tassa in più da pagare, semplicemente. Vi date i 14? Vi date i 18? No, dipende. No, è semplicemente che c'è la commissione di censura e quindi tu per passare lì in commissione di censura comunque fai un passaggio qualcosa burocratico, certo, e c'è qualcosa che, bolli, che rifunziona. Ed è una cosa oscena, mentre invece il teatro non è soggetto a censura completamente, e quindi in teatro si può dire quello che si vuole. E anche se il bacino d'utenza è più piccolo, limitatissimo, certo, no, più piccolo, è mostruosamente, sì, più piccolo, però è efficace, perché il teatro è rituale, quindi chi esce da uno spettacolo teatrale convinto di quello che ha sentito ne è convinto veramente, e quindi è considerato, anche se nessuno dice questo, lo pensa magari, però è considerato pericoloso. Ancora? Sempre. Come i pelle rosse in America, sempre, ancora pensano che possano riprendere... orgoglio e potere, ma è anche giusto, certo, perché sono la civiltà individualmente più elevata del mondo, sì, quindi hanno ben ragione di averne paura. Che bello, dobbiamo andare, no, un perché attimo. Sto pensando per esempio al teatro in Francia, dove lì è più rispettato, lì abbiamo anche delle leggi che salvaguardano il teatro, il cinema, il 60% dei prodotti esse francese, una parte degli incassi vanno al cinema francese. Frena, parlo del privato, nel senso un teatro privato che appartiene a te per esempio, tu hai un teatro, puoi avere in questo teatro una commedia che dura 2, 3, 4, 5 anni. Recentemente sono andato a Parigi, sono passato in un teatro di 30 posti che si chiama il Théâtre de la Huchette, nel quartier Latin, dove quando ero piccolo c'era una cosa di Ionesco e di Marcel Achard. Tuttora continua Ionesco lì, eh? Sì, esatto. C'è andata Alessia, però mi ha raccontato. La cantatrice Calva. Certo. E c'era, è il terzo più famoso di Ionesco. Insieme a Rinoceronte. Ma credo che da quando è stato creato che sta lì, sta è lì. Vero. Beh, questo è un esempio un po', no, ma ci sono tante cose, ma dobbiamo andare in pubblicità. La cantatrice Calva, che poi è l'unico momento in cui si dice nel testo, c'è Tiberio Timperi che mi ha chiamato, sì, il telefono, pettina sempre allo ma stesso non modo non gli ho risposto, non gli ha risposto a Tiberio, ma casomai chiamiamolo al telefono. Andiamo in pubblicità, torniamo fra pochissimo con i nostri amici Joselen, devo dire tanti messaggi bellissimi, grande, bellissima puntata Joselen, un mito, grande Duccio, grande Ninni, e comunque meglio dei berberi, comunque meglio dei berberi solo i normanni sicoli, dice. Vabbè, a tra pochissimo, Voice Anatomy. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Anatomy. Sì, stiamo sorridendo perché è entrato di corsa Mauro Meconi dicendo: visto che me paghi per fare l'autore, gli fai qualche domanda di quelle che ho scritto? Ma sai che si aprono dei link, Mauro, che sono... Ma sì, tanto... ma giustamente, Mauro, che ti impicci? Io volevo sapere la cosa dei teatri in Italia, perché non si può fare come in Francia. Ecco, perché non ci ho fatto la domanda. Aspettate un attimo, che succede? Come si dice, no? Ah. Non me va di fa un cazzo. Sfondi una porta aperta, biasci. Tanto per riportare la conversazione a dei livelli come più si dice, no? Ecco, non mi va di fan caso. Esatto. Sfondi una porta aperta, biascica. Ecco, ma arrivano pure dei messaggi, te lo dicevo prima nella pubblicità. Bruschetta deve sapere che dopo l'episodio dei branzini sono passate le gallinelle, costano pure meno. Questo è l'episodio che... È un episodio in cui io vendo dei pesci a Paolo Calabresi. Cioè, più che vendere, lo costringo a comprarli. Ecco, vedi, stiamo parlando di livello. La lezione di UNESCO e capirai come depensa la donna. Che cos'è? Depensa? Non lo so. Vabbè. Va bene, messaggio ellittico. Va bene. E parlavamo di teatri, che in Francia, come il cinema, sono molto più aiutati. Insomma, l'ultimo esce un film come Benvenuti al Nord, perché danno la possibilità di fare tanti film francesi. All'ultimo, un capolavoro esce. Qui escono quei sei, o teatro uguale, due settimane, una settimana, poi arrivederci. Perché? Perché l'Italia ha un problema grosso, che è l'istituzione. Io diciamo che lo dico perché lavoro dentro le istituzioni, sono stato più volte direttore di teatri, quindi non sono uno che rosica. Esatto. L'istituzione è diciamo modellata su un sistema di pensiero orribile, che diciamo potremmo definire, ma giusto per farci capire, non per offendere nessuno, paleodemocristiano, direbbe Pasolini, no? Che diceva paleofascista, cioè vecchio democristiano, cioè spartizione e contributo a pioggia, per cui la tenitura è impossibile. A parte che in Italia ci sono delle storture per cui i teatri pubblici sono solo 16 in tutta la nazione, è un disastro, ma e assorbono un sacco di soldi, assorbono un sacco di soldi, investono male, non hanno parametri esatti, ci sono tutta una serie di difficoltà, ci sono le leggi che ogni volta che vengono fatte secondo un criterio, però poi vengono usate per fare il peggio, perché fatta la legge ho trovato l'inganno, eccetera eccetera. E quindi poi alla tenitura, che invece è l'Oscar del teatro, cioè il teatro vince quando rimane un anno, due anni, qua, tre anni. Due, tre, dieci, perché in Francia, calcato, in Inghilterra, in Germania teatro, e non l'opera che viene proposta dentro questo teatro. Per esempio in Francia il teatro tiene finché c'è gente che viene, a vederlo. E questo penso che è un fatto di meritocrazia e di talento di chi ha scritto, chi lo interpreta, chi è in manifesto, e che è importante come ma questo cosa. Disastro in Italia esiste anche nel cinema. Se no, la difficoltà che è il cinema indipendente in Italia è dovuta a questo. Ci sono dei film, io faccio un esempio, c'è stato un film che è uscito pochi anni fa che si chiama Spaghetti Story, sì, che è diventato una specie di cult eccetera. Non si è saputo più nulla di quel film. Quel film era un film che non veniva mai smontato, perché lo spostavano di sala in sala ed era sempre pieno, sempre pieno, sempre. Ma nessuno ha mai... Chi era la regina, te lo ricordi? Allora, lui era un napoletano. Mi confondo che con chiama... Edoardo De Angelis, ma no, non è lui. Assolutamente, quella è si chiama Ciro. Ora va bene, comunque, c'è certo un attore napoletano. Se lo sì, merita, sì, sì, sì, assolutamente. Sì, me lo cercate. Ciro, dimmi. Ciro De Caro. E quello, diciamo, non so se vi ricordate l'episodio di Lola Darling, si racconta che, sì, che Spike Lee diventò Spike Lee facendo un film con le carte di credito, perché da poco esistevano le carte di credito, allora potendo pagare a due mesi di distanza lui riuscì a fare Lola Darling, e poi cominciò a incassare prima di pagare i debiti. Anzi, una volta era così a carte di credito. Adesso no, incassano subito. Ho capito, però questo significa che c'è un mercato. Quello che esiste, manca in Italia, sia nel cinema, sia nel teatro e anche nella televisione, è il mercato, perché il mercato è fasullo, è falsato, soprattutto quando c'è l'interesse pubblico in mezzo. E sì. Poi non ci sono produttori praticamente, ci sono dei produttori come Pino Insegno per esempio. Ma io rischio su me che stesso sempre. Che rischia da solo, come l'ho fatto pure io con il consiglio di Pino, giustamente. Vabbè, Pino rischia diciamo a prescindere. Sì, rischia. Base, però mi piace. L'hai venduta la casa che ti avevo messo? Sì, purtroppo l'ho svenduta, lascia stare, non parliamo pure di quello, che pure lì è un disastro. Ma in questo momento voglio dire all'autore c'è un crollo di ascolti. Sì, perché si parla di mutuo. Ormai c'è la casa. È il mutuo. Ci vuole veramente chiamare, no, fanno fino e fagli fare una chiacchiera. Le nostre vite private, che nessuno sa che abbiamo anche noi le nostre difficoltà. Vabbè, esistono, insomma, io lo dico sempre, ho fatto uno sketch che La vita non è un film, dove racconto prima un film di Solvenza e Stacchi e poi le stesse storie tutti i giorni senza di Solvenza e Stacchi, la stessa storia. Tu hai mai visto Brad Pitt e va al bagno perché c'ha una botta di colite, o se sveglia la mattina se baciano in bocca al cinema, non si fa così, certo. Perché quella la mattina tua frase... chiunque c'ha la... come la tua frase che ti c'è la sugna. C'è la sugna in bocca, quell'ora anche Brad Pitt e Joe Lisa non lava i denti. Se non mi fai una domanda di quelle c'è scritto sì, lì, verrai licenziato adesso. Allora, fondi la tua prima compagnia teatrale nel 1983, una compagnia che si dedica principalmente a soggetti di valenza sociale. Il teatro è stato il tuo primo richiamo? Sì, perché l'ha detto fino adesso, sicuramente, però non avevamo detto la notizia. Hai avuto la fortuna e la bravura di avere una parte nel fantastico film di Sorrentino, L'uomo in più, che secondo me è uno dei film più belli. Beh, questo, io dico sempre che il più bel film di Paolo è l'ultimo. Sì, è vero, sono tutti belli. Paolo è una persona fantastica. Ho avuto modo ho fatto solo di persone, è che è un genio. No, infatti, sì, ma anche quando Pop si sposa è più bello dell'ultimo sì, film. Sì, ma quando si sposa, che si sposa il genio con la bella persona, diventa un altro matto geniale, e questa è la nostra sinistra. Insomma, c'è cioè, Joselen ha veramente fatto quello che Sorrentino fa nel cinema, lui ha fatto in televisione. Questo è un pazzo. Ha fermato una nazione come la Spagna per fare un programma televisivo dove per fare una paella per 40.000 persone. Sì, vabbè, in quello è il minimo, lasciamo stare, insomma, capito? Per cui è sicuramente, però L'uomo in più è bello, cioè, bellissimo. Bello, poi bello, la cosa bello. Più bella dell'uomo in più è quando l'abbiamo fatto, perché lui dicevo era assistente alla regia del verificatore di Stefano Incerti, che noi producevamo insieme a Mario Martoni, diciamo, alla compagnia Angelo Curti eccetera, e poi mi chiamò Angelo Curti appunto perché mi disse che Paolo voleva farmi un provino. Ma mi conosce, ma chi è questo? Cioè, fare un provino a me, ma perché? Che cosa? E lui ha detto: no, sai, ci tiene. E lui fu irremovibile, lì riconosci il campione. No? Lui era sempre sereno, simpatico. Cioè, però doveva fare il provino. Ha fatto il provino, poi abbiamo fatto il film. Senti gli attori. Tu lo sai molto bene, ma non si rendono conto di che cosa sarà quel film, minimamente. È come il grande artista scrive la canzone, ma non sa che quella canzone. No, ma non è tanto quello. Per è l'eternità. Che, è che il linguaggio, secondo me, il teatro appartiene all'attore. Io, infatti, faccio il regista a teatro. No, vabbè. E, mentre il cinema appartiene al regista e, se vuoi, in parte anche al direttore della fotografia. Cioè quelli che veramente si rendono conto di che cos'è il film, mentre il film viene girato sono soltanto loro. Noi viviamo un'emozione, ma non sappiamo che film sta venendo fuori. Quindi quando io ho fatto quel film lì, tra l'altro con Tony Servillo, che era un amico, una persona con cui avevo avuto occasione di crescere, se vogliamo, no? E Paolo era un ragazzo, quindi tu... Non è che c'hai, che pensi che sia un brutto film, però non ti aspetti nulla. Poi a un certo punto mi chiamò sempre Angelo e mi disse: guarda, facciamo una proiezione a Cinecittà. E te sei reso conto? Io non volevo andarci perché stavo partendo per Messina con la macchina, mi sono fermato, ho detto: guarda, ne vedo un pezzettino e me ne vado, perché devo partire proprio. Certo. Invece sono rimasto ovviamente tutto fino alla fine con la bocca aperta, completamente sconvolto, fantastico. E commosso. Alla fine io ho detto a Paolo, e qua ci vuole il dialetto, torniamo all'inizio, ma un neri, cioè dove stavi, da dove sei uscito, cioè che cosa incredibile, che roba bella che ha fatto. E poi io mi ricordo che sono rimasto folgorato, forse lì ho capito veramente dal mio punto di vista che Sorrentino era un grande maestro, alle conseguenze dell'amore, perché è un film che ti incanta e che ti porta dentro incredibilmente con quel racconto, ti stimola il sentimento, proprio l'amore. È un puzzle gigantesco che sta facendo lui, ancora con grandi film intensi, perché magari uno può essere leggermente meno, ma fanno parte di questo disegno, il divo, anche il film capolavoro. Il coraggio di raccontare un Andreotti così perfettamente, secondo me, nel senso che io, diciamo, faccio all'anima sua, considero Andreotti un personaggio diabolico del nostro paese e credo che abbia fatto molto più male che bene. Però la cosa straordinaria del film di Paolo è che ti racconta anche non il fascino, ma il perché del fascino, no, del male. Guarda pure The Young Pope, cioè, coraggio di raccontare, e in America sta andando meravigliosamente bene. Ma perché lì c'è anche un'altra cosa, se tu alzi il livello dello spazio, del luogo, dell'opera d'arte, l'arte è spazio, no? Cioè sì, è solo spazio. Florensky, un grande scrittore russo, diceva che proprio il cuore dell'opera è lo spazio, se lo togli non c'è più l'opera. Se tu alzi il livello dello spazio puoi dire tutto. Nel momento in cui lui entra in Vaticano e comincia ad impostare il dialogo, la vita di persone che comunque hanno una posizione sociale ma anche spirituale elevatissima, in realtà lui fa dei discorsi che sarebbe impossibile porgere in un modo diverso, perché sono in alcuni momenti anche alta metafisica. Sì, sì, ma poi con grande coraggio, con grande profondità, e con grande filologia, disinibito completamente. Perché quando ha sdoganato tantissimo. Senti il Papa che dice io non credo in Dio, la vera disinibizione non è quando lui dice che non crede in Dio, ma quando lui ti fa vedere la Madonna in persona. Sì, è lì che c'è. No, perché la bellezza poi del pensiero religioso, eccetera, è che tutto sia possibile, come di fatto poi è, almeno questo è il mio punto di vista. Hai capito, Giuseppe? Sì, ma infatti ho notato che tu non parli più quanto Polanini. No, ma aspetto proprio l'ultima congiunzione. Ma mi attacco. Non mi inviteranno più a nessun programma. Ti vuoi affittare per pranzo e cena quanto c'è Pino. Quello però ti costa un sacco di soldi. Come? Mi fai sta zitto? Sono i momenti in cui servono i pranzi nelle cene. Sai che palle certe volte. Lo so. Ma tutto l'istante ne approfitta con te. Ma qui c'è grande intensità. Cioè, per me è il mio cervello in outsourcing oggi. Capito? Cioè, la gente dice, vedi, chiama gente parallela a lui, perché allora hai invitato Jocelyn? Infatti, sono stato invitato per guardare un po' che cosa succede in questa trasmissione. Vedo Mauro Micconi che è pagato per scrivere delle cose che non serve a niente. No, oggi serve, perché comunque per me è un punto di riferimento importante. Però quando tu apri un link così largo, no, è bellissimo. Grande no, filologia. Pensa a una persona che parla 7 lingue. Quanto capisce più di ognuno di noi. Hai capito? No, ma le cioè, parole male. Non le ho studiate manco una. Come diceva Charles Aznavour, mi diceva, noi parliamo delle lingue, ma delle lingue d'albergo. Ecco. Però tu lo dici, a te te lo diceva proprio Charles. Come diceva Lando Fiorini. Quindi capito, già c'hai un curriculum che nessuno di noi c'ha. A me come lo diceva Lando Fiorini. Perché lo diceva lui personalmente. Esatto. Dindon, 100 campane stanno a fatte di me pure, mio compare di Messina mi diceva quella cosa. Hai capito? Lui c'ha stata voce. Qualcuno dice, ma perché qualcuno fa finta di non conoscere la lezione di UNESCO? Ma nessuno sta fa finta di non conoscere. Conosco la lezione. È un bel dualismo importante fra lei. UNESCO, non UNESCO. No, UNESCO non è battuta la premia da ditta che facciamo i libri stasera. UNESCO quadri di Pinter nella prima, nella seconda edizione, la terza storia del ferro battuto dei fratelli Fabbri, mi ricordo le cazzate che facevamo, questi erano gli inizi quando facevamo l'almanacco del giorno dopo. Oggi si festeggia Sandokan, auguri a tutti i Dokan, cioè, via via, insomma, che sono le battute quelle basiche antiche. E no, ma zitto e sto buono, devo dire, andiamo posso dire pubblicità tra pochissimo, torniamo. Lo dici bene però No, lo sto dicendo. Non dici in francese pubblicità? Publicité. In inglese? Advertising, non si dice. In arabo? In arabo, che ne so io. No, come che ne sai? Parli 7 lingue. Sì, ma pubblicità, se deve pubblicità. Ci vediamo fra poco. Ci sentiamo tra poco. In arabo. Che ne so? Non lo so, mi prendi così. Oh, c'è un cervello che si deve connettare anche. Connettare? Io su questo darei la parola al nostro pubblicità tra poco, appena si connetta Jocelyn. A tra poco. Voi Grey's Anatomy. Eccoci all'ultimo blocco prima di ascoltare il nostro amico Capuano. Tutti convocati, tanto sono tranquillo. Ho giocato ieri oppure vinto, per cui sto tranquillo. Io ho giocato ieri. Tu sei del Messina? Messina che è Lega Pro? Dove sta? Lega Pro. Lega Pro. Continui a essere del Messina, non della Juve, certo, come tanti siciliani. Vabbè, vabbè, giustamente, magari non avendo la squadra in Serie A. Cioè io ho mio cugino che è interista, che dice essere di Milano, se ne va a Milano. No, però io posso capire, ma perché magari può, ma dai, ma è triste, bisogna di fare. E poi io dico per tutte le squadre del sud, io da Roma a Nocerina, a Trapani, Nocerina, tutto, senza soluzione di Gioia Tauro in promozione, cioè Matteo, tutto. Però soprattutto Matteo adesso in questo momento sta con la Primavera del Pisa, però c'ha una leggera, no, dire una cosa, che in questo momento noi abbiamo un problema societario non indifferente. Ma risolviamola poi, Sanatomi. No, ma abbiamo Cristiano Lucarelli allenatore, che è l'uomo più straordinario del mondo. Il grande Lucarelli. Cioè, il modo in cui si sta comportando Lucarelli è incredibile. Vabbè, cioè, ma è stato un grande anche, sì, cioè, quelli di una volta, i lavoratori. Non te lo aspetti, perché a un certo punto quello arriva a Messina e dice: ma potrebbe anche dire che io sono Cristiano Lucarelli, grazie, sì, arrivederci. Mi sta... Cioè lui prende la parte dei giocatori, dei tifosi e le cose, e soprattutto sta salvando la squadra. Come siete in classifica? Beh, siamo messi male, ma eravamo messi molto peggio prima che arrivasse lui, e abbiamo vinto un sacco, sì, di partite, e speriamo, cioè ci salviamo, sì, per salviamo. Forza. Dopo chiediamo a Capuano che ne sa qualcosa. La Paganese, ahimè, con la Paganese, non meritandolo, devo dire, anche se la Paganese, insomma. Quindi dopo aver parlato di filosofia, di storia, del teatro, di arte, eccetera, riusciamo anche a parlare di calcio, cose e pepe basiche. Tu non sei un calciofilo? No, calcio e pepe. Calcio e pepe, tu sei calcio e pepe. Caro Pino, sei attore bravo e versatile, come mai non ti si vede nelle tante belle fiction TV al cinema? Fate una domanda, una e date battuta, una risposta. È una battuta riferita a me, quindi perché non fai con visto te? Conosci, dunque, hai lavorato con Daniele Lucchetti, Woody Allen, Marco Tullio Giordano, Paolo Sorrentino, Marco Pontecorvo. Una raccomandazione perché, te posso, esatto, perché non fai fare due pose al Porovino? Ma perché io ho fatto tante cose, ma dall'inizio ho dovuto impararle da solo. Il cinema non ho fatto in tempo, ho fatto 7-8 film, ma come dico sempre vanno in onda per i dimenticabili di Rete 4, per cui non perché non sia bravo, non ho fatto in tempo. Poi sei voglio un presentatore, il direttore artistico dei dimenticabili, ma non posso, perché meno male ti vedono come presentatore, no? Devi dimostrare, adesso magari capita un film, lo faccio meravigliosamente e vinco il nastro d'argento, allora cavolo, no, Pino, però come io ho scritto nel mio libro, Pino, il nastro d'argento o il David per il non protagonista non lo vince mai un non protagonista, lo vince un protagonista quando fa il non protagonista. E tutti quanti dicono: guarda che umiltà, si è ritagliato questa piccola parte, premio subito, premio. Ecco, allora non vincerò manco quello. Ma c'è Capuano dall'altra parte del cavo, in quel di eccomi, Milano. Eccomi, Capuano, eccomi. Saluta Jocelyn. Saluto Jocelyn. Ma non in italiano. In francese. Saluta Jocelyn. Ma non lo so il francese. Lo vuoi? Madonna, ma fai non il conto. Sei Capuano. Giornalista, Capuano. Capuano. Capuano. Saluta Nini Bruschetta. Però posso darvi il nome di un attore protagonista di sì. oggi? Zeman. Oh, grazie, che è successo? Grazie. Il Pescara sta vincendo 5-0. Madonna. Contro chi? Contro il Genoa. Ma dai. Sì. Ma che meraviglia. Sì. Cioè lui è così. Che genio. Io Zenek lo amo. Che genio. L'uomo che io detto, ma ecco, Pescara non aveva vinto neanche una partita mai, sul campo, ma la cosa bella Zen è che io ho detto: perché ci pensi tanto? Ma perché non sei ben italiano? Perché prima di rispondere? Perché penso prima di rispondere. Che genio. Genio assoluto. Che importante. Come parlavamo prima di The Young Pop, no? Quando lui dice qual è il musicista più importante, cioè, non il migliore, non il più bravo, il più importante. Zeman, secondo me, è il più importante allenatore che esiste nel mondo. A dire cose che nessuno, tutti pensavano, ma nessuno ha mai detto, come un vero standing comedian. Dimmi poi gli altri risultati. 5-0 è pazzesco. Sì, 5-0 del Pescara sul Genoa, tra l'altro i tifosi del Genoa arrivati a Pescara se sono andati dopo mezz'ora. Mette al gol del 3-0. Sono contento, sì, per Sebastiani, che era un attimo difficile, mi spiace un po' per Oddo, sinceramente, che Massimo è una cara persona che ha portato in Serie A, insomma, il Pescara, però vabbè. Ti do gli altri risultati, sì, siamo sì, negli istanti finali. Il Napoli sta vincendo 3-1 a Verona contro il Chievo. Strano. Quindi insomma c'è la rivincita, la vendetta di Sarri. Hanno segnato Insigne, Hamsik e Zielinski. Poi Meggiorini ha segnato a un quarto d'ora alla fine della partita. Vabbè. Gara però chiusa ampiamente già nel primo tempo. Tifosi del Napoli presenti a Verona schierati tutti con Sarri e tutti contro De Laurentiis. Questo per chiudere la settimana un po' particolare che ha vissuto il Napoli. Gli altri risultati: 1-1 tra Sampdoria e Cagliari, Isla e Quagliarella, appena annullato tra l'altro in maniera abbastanza discutibile un gol al Cagliari, se ne parlerà. Udinese Sassuolo 1-2, Fofana e doppietta di De Frel, di Pescara Genoa ti ho già detto, ha segnato Gabigol, a proposito di attori non protagonisti. Nella partita delle 12.30 l'Inter ha vinto soffrendo a 9 minuti dalla fine e ha segnato Gabigol. Per cui pure l'Inter ribalza e davanti alla Lazio. La Roma gioca alle 6 contro Roma il Torino. Gioca alle 18. Infatti devo tornare di corsa a casa per far vedere a Mauro Meconi e a Claudio Ferraro la Roma. E io non devo di fare. Bravo, perché mi sembra giusto. Però gli metto di fronte. Soprattutto io non ho detto a mio figlio che venivo in trasmissione con te. Perché c'è pure gli occhiali azzurri. Neanche azzurri, sì. Che quello si arrabbia proprio. Sono tanto. Onesto. Cioè, mi dice, papà, ma dove vai? Non sono integralista, nel senso, io sono sportivo. No, comunque non è vero. Io, essendo qui tutte le domeniche, posso testimoniare che non è che vero. Cosa? Che cosa non è vero? Sei integralista. Non sono integralista, ma non è vero. Ma, bravo, Capuano. Ma non sono tu sei un templare laziale. Certo, perché il tifoso, come diceva Carmelo Bene, è l'ultimo stadio del teppista. No, Lazio-Roma, sono della Lazio tutta la vita. Ma non ho mai detto la mia vittoria non sarà mai la sconfitta di un altro. Questo come filosofia. Ma perché mi insulti? Tu sei della Roma, sì, ma tu sei dell'Arabia Saudita, ma come, sei della Francia, non hai mai visto una partita di calcio, sei del Paris Saint Germain. Ma che c'è Paris Saint Germain? Ma poi parla romano di Auli Mortea, dillo. Le mortaci tu, ma con la R-Mossa. Ma non si possono dire queste cose con la R-Mossa. Capuano, ti chiedo scusa. No, la puntata è stata portata in avanti e in alto dal mio amico Nini Bruschetta, abbassata da un uomo di sette lingue, berbero e con gli occhi azzurri e coglione. Ma non si dicono queste parolacce. Non c'è Cruciani e non è l'orario. Ma guarda che forte, Capuano. Buona trasmissione, buona, buoni tutti i convocati. Ci sentiamo domenica prossima. Ci sentiamo settimana prossima. Ma prima o poi gioca la Lazio alle 15. È vero, non ci incontriamo perché lo chiamavo mai una gioia il mio amico Capuano, che ogni volta si collegava. No, dico, capiterà prima o poi. Di brutto. Quest'anno no, devo dire che si è succede domenica prossima. Lazio Udinese. Ah, va bene, no, in casa diciamo. Registrate. Di squadra sei tu, Capuano? Scusami. No, di nessuna. E per di giornalista, tutte e di nessuna. Finché non vai in pensione non lo puoi dire. Come posso chiedere a Filippo Auretti di registrare Vinciamo? Vinciamo. È vero, l'ho sentito anch'io ieri in radio. Cucchi della Lazio. Sì. Ah, che ha dichiarato. È stato onesto. Anche Collina. Della Juve. Ma è stato fantastico. Anche guarda. Collina credo della di Lazio. Sì. Vabbè, però con quella partita lì con l'alluvione è finita 1-0 per Perugia, poteva finire 1-0 pure per la Juve, insomma, Non io l'ho visto. A domenica prossima, dai. È meglio, Capuano, è meglio. Grazie, ciao. Sì, c'è questo dualismo che non so di che squadra è Capuano, però ogni volta che si collegava succedeva qualcosa di negativo a Lazio. Io invece sto la domenica, dico fortunatamente, fra le buone domeniche che ho fatto, le domeniche in sono fuori un po' dal calcio, non ci penso. Quando gioca il sabato, lunedì la seguo ovviamente. Ma non sono integralista. Smettetela. Boh. Ninni, che stiamo combinando in questo momento? Io ho appena finito di fare... C'è un posto al sole, esiste nella tua vita? Sì, esiste, come, però ho finito da un po' di farlo. Sì. Era una cosa che è capitata e che volevo fare. Era un mio... No, ma è divertente. Noi stavamo spesso a Napoli, nello studio accanto, perché facciamo reazione a catena. No, ma devo dire una cosa seria, cioè è una delle produzioni più serie che... Assolutamente, conosco tutti, sono grandi professionisti. Funziona tutto bene, poi per me è stato un piacere farlo, poi... Comunque è palestra per un attore grandissima quella, anche per un giovane attore. Per me no, bella, perché sono vecchio. Tu ormai sei istruttore. L'ho fatto in un modo completamente diverso. Cioè, sono andato a vedere quella realtà e a fare una cosa che non avevo mai fatto, perché poi è un genere, no? Lo so, certo. È un genere. E quindi mi è piaciuto molto farlo. Poi subito dopo sono rimasto a Napoli a fare invece la nuova serie di Mattia Torre, che come molti si ricorderanno è uno degli autori di Boris, sì. Che si chiama La linea di verticale. Che sulla carta è un capolavoro, poi vedremo quando uscirà. Ancora non lo so esattamente, è un progetto di Rai 3. Per cui mi stai a Napoli adesso? Abbiamo finito. Ah, finito prima di Natale. Adesso invece poi sono stato a Palermo a girare sempre con Giorgio Di Rabassi, che era anche nel film di Mattia, nella serie di Mattia, Libero Grassi, che è un'altra storia importante. Film TV sulla vicenda di Libero Grassi. E il prossimo film che faremo insieme, Ninni, dove finalmente farò il non protagonista? Lo stiamo scrivendo in questo momento. Posso io fare te. Il non protagonista? Abbiamo cominciato oggi a parlare di questo film. Esatto, dove io sarò il miglior attore. Secondo me tu sarai romanzo. Il protagonista invece, perché io rimango sempre non protagonista. Posso fare la figurazione io? No. No, così mi fai perdere diventa film televisivo. No, ma perché non si capisce poi le lingue. No, esatto, te do doppia in quale lingua. non si capisce. Allora, ringrazio Giuseppe fino a un certo punto, ringrazio totalmente Ninni Bruschetta. No, grazie a voi, Giuseppe. Ringrazio voi, radioascoltatori, grazie, della vostra attenzione. Ringrazio tutti, vabbè, sistema paludi musicali qui adesso, vabbè, è troppo lunghi i messaggi che sono dice, arrivati. Che dice? È lungo, allora non si muoveva foglia con il beneplacito del PC. Cinema, teatro, danza, musica, grazie ai finanziamenti di diritti e non di parti politicamente lottizzate. Si è riusciti a far estinguere creatività e impresa e a foraggiare generazioni di tristi e annoiati pseudoartisti, sciatti e incapaci, pure nel dialetto che biascicano, in perenne attesa della sovvenzione di Stato e campioni di piagnisteo, seppur già falliti in prima elementare. Le culture col cap. Bello, no, è vero. Stiamo a livelli altissimi. Ma puoi scrivere così velocemente? No, sono dei geni, io vi amo, grandissimi radioascoltatori. Mi fanno cenno di salutare. Ciao, parola a tutti i convocati. Noi ci sentiamo domenica prossima. Voice Anatomy. Grazie per il vostro affetto.